andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tra pochi mesi diventerò padre, tra pochi mesi mi sposerò, ho 31 anni, vado in giro con le cuffie, con il podcast della zanzara, ma secondo voi sono un coglione oppure è tutto normale? Io penso di essere coglione, però non posso fare a meno di voi. Ma ragazzi, uno non si può buttare così giù. David, hai sentito che dice questo qua? Ha perfettamente ragione. Ma come ha ragione, scusa? Ha perfettamente ragione, è vero, deve sentirsi un cretino, un poveretto, un disturbato. Ma perché? Quindi grazie, ci avviciniamo a Natale, 18:36. Oggi la trasmissione finisce qui. Perché è andata bene, era bello questo attacco, questi audio, queste musichette. Allora è partito niente. Questa è una bella trasmissione. Ma non è successo nulla. Appunto, ma pensa che clamore che è. Dici, cazzo, hanno chiuso la zanzara perché? Niente, solo la sigla iniziale, si chiama post radio ormai, come la post televisione. Rotti il cazzo tutte le sere, chiudiamola qui, finiamola qui, vuoi sempre fare la trasmissione di 5 minuti? Sì. Pagata, fra l'altro, pagata, cioè, ma vaffanculo. Sempre pagata. Porca puttana, io se fossi nei vertici di Radio 24 ti multirei ogni volta che apri bocca, ma che coglione. Cornuto, vaffanculo tu, pagato e non in onda, chiudiamola qui. Ma è bello, perché la gente si telefona e dice che è successo. La post radio si chiama, c'è una radio che non va in onda, va in onda solo la sigla, 2-3 audio, un po' di musichetta. Basta, che finito, chiuso. Finito, 18:37, chiudiamola qua, perché era bello. 20.000 euro al mese. 20.000, sì, ma c'è, perché no? E dov'è il problema? Allora, frega niente a me, frega niente. Comunque, ragazzi, il numero uno resta sempre il professor Antinori. Ma che ha fatto Antinori? Ma non è in galera Antinori? Che è successo con Antinori? No, sta, non so, domiciliari, al confino. Taormina è sempre il suo avvocato o no? Sempre, Taormina? Sempre. Può essere Taormina, guarda, una storia pazzesca, sporca, lurida, veramente. Guarda, ma magistrati. Quale? Ma tutti ladri, sti magistrati pedofili. Ma perché? Guarda. Abbiamo le carte. Ma carte abbiamo di le cosa? Carte, magistrati schifosi, guarda, gente proprio brutta. Comunque, oggi è andato al processo sulla storia degli ovuli là, e ha detto a un certo punto ha congelato un paio d'ovuli, ma chi se ne frega, li avrà tolti da una vecchia, ma ha tolto degli, c'è l'espatrio delle persone, c'è anche l'espatrio degli organi, che se ne frega. L'espatrio degli organi, degli a un certo ovuli. Punto è dato in escandescenze Antinori, Taormina, no, o Antinori? Sì, effettivamente la domanda non è del tutto so, folle. Ha detto magistrati talebani e se n'è andato. Sì, il io, professor ha fatto bene, una giusta Antinori. Strategia processuale quella, è giusta. Allora, parla il figlio di Poletti e dice, per esempio, che i soldi che prende, 500.000 euro di finanziamento pubblico per fare giornali, insomma, che non conosce nessuno, diciamo la verità, è tutto legittimo. Io non mi sento assolutamente un privilegiato, faccio con passione il mio lavoro da 20 anni, ho fatto una gavetta lunga per 10 anni di precariato anch'io, ho fatto di tante collaborazioni, per chi lavora nei giornali se ne sa cosa vuol dire. Sì, però ragazzi, dobbiamo intenderci su questa cosa qua, magari più tardi proviamo anche a chiamarlo. Il punto fondamentale è questione, nessuno dice che hai la mascherina, perché ci sono alcune cose che avvengono che non c'è bisogno per forza di avere la mascherina e la pistola. Se tu sei figlio di Poletti, lavori già nel giornale delle cooperative, dunque un po' privilegiato sei rispetto ad altri che non hanno avuto la stessa possibilità, non al padre che si chiama Poletti, primo. Secondo elemento, si può dire, almeno secondo me, che è un privilegio non dico un latrocinio, potrei anche dirlo nei confronti delle casse dello Stato, perché non serve a nessuno, serve appunto a dare posti di lavoro, ma non in modo giusto, secondo me, in modo sbagliato. Si può dire che prendere 500.000 euro per pubblicare dei giornali che leggono in poche persone sia una cosa che non bisogna fare, tanto per dirla senza usare parole forti come facciamo di solito, ecco, no? Ecco, si può dire o non si può dire? Si possa dire, dai, dunque, è un privilegiato, ma non c'è niente di strano, c'è tanta gente privilegiata in Italia. Però anch'io, è uno che magari lavora. Però c'è un'altra cosa che devo dirti, a proposito di parole forti, sai che sono arrivate delle proteste ufficiali al Quirinale da parte di un deputato o senatore della Sud di Tirolo, il Volkspartei. Per le tue parole utilizzate. Sì, protesto ufficiale. Hanno ragione, sì. Volevo dirlo anch'io. Hai dato ragione a me tu, quel giorno? Dato ragione a me, sì. Hai dato ragione a me quando ho detto quel tedesco del cazzo, là, quella lingua del cazzo. Ma io non avrei detto proprio così, però avrei detto... Sto ripetendo quello che ho detto. Avrei detto si parla in italiano, amico mio. Esatto. In Italia si parla... Non avrei detto lingua del cavolo, non l'avrei detto. Avrei detto si parla in italiano qui, amico mio. Si parla in italiano. Signor Berger, che non è l'ex pilota Berger, quello della Ferrari, là, come si chiama, Berger. Ferrari, deputato, Ferrari. Senatore della Ferrari, Sud Tirol Volkspartei. Bah, ragazzi, ditemi quello che volete. Io forse do il carico da 90. Ditemi quello che volete, ditemi quello che volete. Ma io non credo che avere un parlamentare per forza di un movimento che parla una lingua tedesca nel Parlamento italiano sia una cosa normale. Io non lo reputo normale. Poi fate voi, che a me non mi interessa. Se viene eletto in un collegio va benissimo. Per me non è normale. Eppure hanno deciso un sacco di cose importanti, questi signori. Allora, Formigoni condannato, caro Parenzo, come sai, a sei anni per corruzione nella sanità lombarda. Ce n'è poco, sei anni. No, primo grado, vacanze di lusso in cambio di fondi, in sostanza. Approfittava di Daccò, questo imprenditore. Secondo l'accusa e la sentenza di primo grado. Cambio di fondi, di vantaggi naturalmente per le aziende di questo Daccò. Sì. La cosa curiosa è che hanno sequestrato Daccò. Allora, 6 milioni di euro, d'accordo? No, d'accordo? Cazzata, allora, questa è brutta, mai una cazzata. Sì, vabbè, ritiro, va bene, ritiro, no, ma chiudiamo, dai, basta. Vedi che non viene bene. Era meglio prima, era un bel inizio. Lasciamo così perché si peggiora andando avanti. Aspetta, no, no, ma la cosa curiosa è di siamo Formigoni. Siamo tutti stanchi. Ma io non sono stanco per niente. L'accusa a Formigoni, no, hanno sequestrato 6,6 milioni di euro. Questo non è male quel tesoretto. No, ma il punto fondamentale è che Formigoni ha sempre detto Formigoni di non avere un euro. Ha sempre detto di... Vabbè, no, ma ti faccio sentire questa cosa, non so che data abbia. 2014. Senti, io no. Quando già le indagini erano in corso e quant'altro, Il mio conto da parlamentare, che non è stato sottoposto a sequestro, dalla giornata di ieri risultava un attivo di 18,20 euro. Fortunatamente quel conto non mi è sequestrato, per cui quanto arriva il 21 del mese mi verrà data la mensilità del mese di aprile. Ma guarda caso, nella giornata di ieri c'erano 18,20. Ora, ha detto nelle parti non sequestrate. Il tribunale ha disposto la confisca di 6,6 milioni di euro in beni, tra i quali quadri, quote di proprietà di 7 abitazioni. Abitazioni da Sanremo a Lecco ad Arzachena, 2 box, un terreno, un ufficio, un negozio a Lecco, oltre a 3 auto e conti correnti. Tutta roba sua era questa. Sì, allora, io dico, ragazzi, per carità, va bene tutto, sarà ricco di famiglia, ma questo signore risulta aver fatto politica negli ultimi, non so, 30 anni, no? Come minimo, signor Formigoni, per carità. Ora, io non dico niente, ma non si può nemmeno dire che con la politica uno non si arricchisce, allora, perché è esattamente il contrario. Ripeto, 6,6 milioni di euro. Dipende, non tutti si arricchiscono con la politica, quadri, non è detto. Quote di proprietà di 7 abitazioni, non tutti, ho detto, 2 box, un terreno, un ufficio di un negozio, sempre a Lecco, 3 auto e conti correnti. Vabbè. Allora, Tiziano Ferro e il suo figlio, e il suo futuro figlio / figlia da acquistare, diciamo così, usiamo una terminologia dinolfiana, da acquistare, per me va benissimo peraltro, negli Stati Uniti. Cioè vuole andare a fare un figlio anche da single con l'utero, sostanzialmente con l'utero in affitto. Sì. Adinolf, sentiamo. E noi abbiamo sintetizzato con 2 paroline che fanno eco a una famosa canzone di Tiziano Ferro: voglio avere un figlio, lo faccio da solo. Lo abbiamo ribattezzato Seghe Nere. I figli non si pagano. Sempre Adinolf. Caro Tiziano Ferro, tu sei ricco, sei un uomo di successo, riempi gli stadi, ma con grande nettezza e chiarezza devo dirti che tu i figli non puoi pagarteli. I figli non si pagano. I figli non si pagano. In realtà si pagano pure i figli, amico mio. Per fare i figli si paga, eh. Cioè, non c'è cazzo da fare. In un modo o nell'altro si paga. Cioè, in un modo o nell'altro si paga. Per cui è inutile. Si pagherà prima, si pagherà dopo, si pagherà per averli come fa il tizio Ferro. È uguale, si paga comunque. Cioè, costano comunque. Poi uno se ne fotte, naturalmente. Però costano. Come costa la vita in generale, no? Cioè, cioè anche i figli sono un costo. Poi beh, uno se ne. I figli costano. Ragazzi, c'è poco da fare. Dillo a Parenzo. Non c'è dubbio, ne ho tre. Costano. I figli costano, ragazzi miei. Poi uno non ci pensa, però costano. Che è? L'inferno. Mi hanno mandato l'inferno dei vivi del signor Richard, questa canzone sta Richard. Ma com'è il respiro di cosa? Ce l'abbiamo il respiro di Adinolf a disposizione? Il respiro di Adinolfi. Vabbè, fermi tutti, poi torniamo col respiro di Adinolfi. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. La Zanzara. Il respiro di Adinolfi, meraviglioso. No, fammelo risentire ogni tanto il respiro di Adinolfi, ti prego. Voglio sentire ogni tanto in sottofondo il respiro di Adinolfi. Ragazzi, sembra una cosa finta, ma com'è? Ma è vero, è il respiro di Adinolfi, cioè, mentre ci parlavamo e mentre parlavamo noi, cioè diceva queste cose qui, ma ti rendi conto? Certo, o no? Ma roba certo, pazzesca, sì, sì, sì. Dunque, cioè, comunicazione oddio. Per il grande popolo della Zanzara 18:48, oh, un po' avanti, a pochi avanti, minuti dalla chiusura avanti. Del programma. Ma non è vero, cioè, sì, poi, che è vero. Mi è poi, arrivata qui in redazione una diffida degli amici del Codacons. Ma chi se ne frega? Ma perché? Ma perché devi raccontare gli affari tuoi? Miei. Cosa? Perché hai detto delle cose sui vaccini? Qual è la frase incriminata? Presso redazione della Zanzara, cosa che avrei detto nella trasmissione. Qual è la frase incriminata? La frase, ecco, bravo, questo. Solo la frase, sapere. Solo la frase incriminata. Vediamo che qui sono quattro cose di diffide. Vabbè, allora diffide. Diccelo dopo. Io ad questo avrei detto. Io ad ascoltare queste storie, ad ascoltare quello pseudomedico che infatti è poi stato radiato da tutti gli organismi ufficiali, mi ricorda molto lo stesso meccanismo che usavano i negazionisti storici. Siete come Irving, quelli che negano la Shoah, voi negate i vaccini. E per questo mi hanno mandato una diffida, mica capito. Vabbè, ma Codacons sono dei rincoglioniti. No. C'è la libertà di dire anche che quelli che negano i vaccini, che negano i vaccini, cioè negano l'importanza dei vaccini, questo. Sono dei coglioni. Io si può dire o non si può dire? Ho rispetto del Codacons, ma non capisco ma perché sotto. Mi mandate. Me la faccio sotto io. Sì. Ma me frega niente a me. Ma non capisco perché mi hanno mandato una diffida in cui mi dicono, invitano Parenzo a porre in essere tutto quanto necessario per rettificare quanto affermato nel corso della trasmissione. Ma amici miei, ma non posso neanche sostenere una che secondo me chi nega di farsi i vaccini commette un crimine. Ma ragazzi, dai. A me intanto dispiace, intanto il Papa ha chiamato uno mattina, Signori di uno mattina. Non senti, è vero. Senti, ragazzi, ma che giornata hai passato? No, guarda. Ma non hai aperto qualsiasi sito normale? No, guarda. Che ho avuto cazzo una... hai fatto? Hai allattato tuo se figlio? Se potessi dirti, hai allattato guarda. Tuo figlio? Cioè, sei diventato un mammo e hai allattato? No, ma che sono pochissimo pazzesca, a casa dai. Oggi. No, ma guarda, una giornata pazzesca. Ma chi se ne frega? Allora, ma... ho messo le gomme da neve intanto. Ma già chi se ne frega? Stato... Ma roba incredibile. Mi hai chiesto cosa ho fatto? Ma fateli mettere da meccanico, c'hai i soldi. E infatti, dai. Sono andato al meccanico a far mettere le gomme da neve. Dai, perché... senti il Papa. Come dai, su, è vero? Senti il Papa, dai, senti il Papa. Questo mondo dove si adora tanto il Dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani. Vi auguro un santo Natale e felice. Grazie. Santo e felice Natale. Un abbraccio a tutti. Allora, questo ma era è Mercù questo. Sì, quello sembrava veramente Andro. No, il Papa Vero, tra l'altro i due conduttori di Mare là, e l'altra, la Fialdini, hanno detto speriamo che non sia uno scherzo, o hanno costruito una pantomima o davvero è arrivata questa telefonata a sorpresa, ma può darsi pure che abbiano costruito una sceneggiata, eh. Bentornati a Una Mattina, come sapete da 30 anni il nostro programma entra nelle vostre case e per ringraziarvi di tutto l'affetto che ci avete dimostrato in tutti questi anni abbiamo per voi un regalo. E anche per noi. Pronto? Pronto? Dovremmo riuscire, speriamo di avere al telefono con noi una sorpresa straordinaria. Straordinaria. Vabbè, non ti emozionare, amico mio. Dai. Vediamo, io proviamo. Io non voglio credere. Ma uno scherzo. Maradona mi emoziona. Pronto, santità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Piangiamo, che vogliamo fare? Vogliamo piangere? Beh, non lo so. Dai, io capisco l'emozione. Ma è una cosa. E questa è il Rai 1 che è supina di fronte al Vaticano. No, eccolo. Buongiorno, no. Emozione. Ma beh, ma ti stai, credo, non ma, hai le, non ti vengono le parole. Ma è un uomo conosciuto in tutto ti, il mondo. Ma è se un parla pure stato, con mia nonna, il Papa. Ma parla con mia nonna, chiama chiunque il Papa. No, a te non ti chiama. A te non ti chiama perché ti reputa uno schifoso miserabile che fai la pipì dei lavandini e invita la gente a fare la pipì. A te non ti chiama. A te, a Donato da Varese, a tutta questa che ne sai, invece dovrebbe di schifezze che hai messo in piedi, a te non ti chiama, ma ti perdonerà un domani quell'uomo. Appunto, un domani anche appunto, a te ti perdonerà. Appunto. Adesso chiudiamo qui, 18:52, grazie che ci hai seguito, ci vediamo dopo le feste. No, fermo, che cazzo no, dici? No, perché qualunque, posso dirti, no, era posso bello dire anche questa chiusura violenta, eccetera. No, il quindi Papa, il Papa, questo, nelle parole che avete sentito di Di Mare, questa emozione, questa finta emozione, perché poi secondo me alla fine ho no, capito, non l'avevo sentito io prima, sarei emozionatissimo, era preparato, io no, zero. No. Era ma preparato, no. Preparato, chiaramente preparato, no, che lo sapevano prima, niente. Come no, dai, lo no, sapevano, no, no, no. Lo sapevano, dai, aspetta, un regalo vi vogliamo fare, vabbè, c'è proprio sapevano, tutto, magari tutto l'inchino, ma il l'inchino, ma chiama il Papa, il TG1, Rai 1, tutti a pecora. No, aspetta, però ragazzi, c'è un altro elemento, c'è il Papa che condanna chi adora il Dio denaro. Ora va bene, per carità, il Papa deve fare la parte in cui accusa la mondanità, lo spreco, il denaro, il Dio piccolo, eccetera, eccetera. Ma dovrebbe guardare in casa propria, amico mio. Soprattutto dovrebbe guardare le sue enormi stanze. Non diciamo solamente quelle del Cardinal Bertone, le famose, quelle del Cardinal, ma le stanze dei suoi cardinali, gli averi che ha la Chiesa. Cioè, il Dio denaro alberga proprio da lui. Magari lui non maneggia direttamente denaro ed è il grande sacerdote, ma il denaro è intorno a lui, il Dio denaro è intorno a lui. Antonio da Vicenza, vai Antonio, ma che fai? Tossisci? Che fai? Questo è impazzito, guarda. C'ho la tosse. No, bevo dell'acqua, infatti. Antonio, dai, dimmi. Carissimi, tutto bene? Sì, vabbè, sì, tutto bene. Chi se ne frega, sono 18:53, tutto no, bene. No, ma sì, te lo spiego perché. Perché dico, fa no, benissimo stare sporchi. Lo, vabbè, questa è una vecchia questione. So, tu mi citerai le ricerche, le cose che dicono che non bisogna lavarsi. No, no, no. Io, per esempio, no, non mi lavo i capelli da, credo, da 3 giorni, caro Parenzo. 3 giorni, si vede anche se vuoi. 3 giorni, ma vanno bene, sono anche un po' stopposi. Ma come fa quella fidanzata che sta con te? Ma perché sono fai stopposi? Ma sono, che sporco, sono stopposi, bellissimo. Ma che brutto. Sai quando sono stopposi? Ma perché ti piace molto essere buono, così schifoso? Ma non mi piace ogni tanto. Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Ha ragione, su sì, questo c'è ragione Taormina. Antonio, allora dimmi. Perché la scienza dal 2006 sta studiando il microbioma umano e quindi tutti sì, i batteri. Ma adesso non ci che fare vanno due palle. No, due palle non voglio fare due maroni su questo, però questo sta a significare che più batteri abbiamo nel nostro corpo, più affogliamo appunto il nostro microbioma. Questo è giusto, hai ragione tu alla fine. Questo serve soprattutto. Tu quanto anche ti per lavi? Quanto ti lavi, amico mio? Ma purtroppo mi piace correre, quindi facendo quasi ogni mattina la corsa. Lo so, è questo. Mi devo lavare. Però purtroppo le tengo per 3 giorni. 3 giorni, molto buono questo qua, 3 giorni di mutande, che Antonio? Schifo. 3 giorni di mutande, magliette anche addosso per 5-6 giorni di seguito, sì? Sì, anche i jeans 15 giorni, ma non io è un problema. Jeans anche 3 mesi senza lavarli. Oh, che schifo, 2 mesi, mamma 3 mesi, mia, no, ma siete 2 persone ributtanti. Ma proprio, perché è normale, è la normalità, è la vita, gli odori, la mistura, che il mix di odori tutti insieme dell'umanità, il sudore, i peli, mamma tutto, mia, tutto, ma tutto. Gente ributtante. Ma questo contribuisce anche a chi soffre di colon irritabile. Vabbè, ma adesso non la ributtante. Ma veramente perché il microbioma hanno scoperto. No, il microbioma no, fa schifo, mio. Stefano da Roma, Stefano da Roma. Non c'è giustificazione, no. Stefano, siete dai, sporchi, sporchi dentro, Stefano, nell'anima e fuori. Sì. Dimmi, sto qua. Dimmi. Sì. Volevo intervenire sul figlio vai, di Moretti. Vai, veloce, vai. Che il punto di vista che hai esposto te è veramente banale. Il fatto qual è? Che ragazzi, 500.000 euro di contributi pubblici, ma di che cosa stiamo parlando? Ma chi è che ha la possibilità? Non è solo lui, ci sono tante altre cose. 500.000 euro di finanziamenti pubblici. Fa giornalismo facilmente. Io non ho detto che fa facilismo giornalmente, ho detto che si chiama Poletti. Il padre è un grande stato, un grande boss della Lega delle Cooperative. Lui lavora nel giorno della Lega delle Cooperative. Ci sarà un legame tra queste due cose, sì o no? Sì, c'è un legame. Piglia soldi pubblici. Un solo esempio. Dimmi, quale esempio? Aspetta, dobbiamo chiudere. Conosci un certo Michael Douglas? Ma che cazzo c'entra? Dai su, ragazzi. Stefano, me lo spieghi dopo, non ho capito. Me lo spieghi dopo. Ma anche quello fa l'attore, ma che c'entra? Dai. Trafitti dai raggi della luna contro i vegani, danzano nudi Parenzo e Cruciani, Parenzo e Cruciani, Parenzo e Cruciani. Roma Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. La Zanzara. I'm ready for Nuovo messaggio ai miei colleghi di lavoro. Io la mattina dalle 10 alle 11 e mezza mi sento la Zanzara in podcast. Questo vuol dire che in quell'orario non voglio rotture di coglioni. Ci vuole tanto a capirlo? Adinolfi? Mario? Mario? Guarda che ti chiamo Tiziano Ferro, Mario? Marione Adinolfi. Le scuse di Poletti. A ridaglia queste scuse. Ragazzi, la cosa che mi fa impazzire è che quando uno dice una cosa, a un certo punto basta. Cioè non è che per forza dopo ti devi scusare. Quando uno dice, noi per esempio abbiamo chiamato la signora Rosina, ma l'abbiamo chiamata, l'abbiamo un po' stuzzicata, non dico presa in giro, ma l'abbiamo attaccata sulla questione del marocchino. Dopo abbiamo chiesto scusa, ma per come ci siamo comportati con lei. Non è che uno dice una cosa che pensa e dopodiché chiede scusa, ma mi sembra una cosa ridicola. Cioè, comunque, poi lei ti chiede scusa, dai. A proposito di giovani che vanno all'estero, mi sono espresso male e mi scuso con tutti. Quello che è successo veramente mi fa stare male. So di avere sbagliato. Ragazzi, le persone pur di non dimettersi fanno qualsiasi cosa. Cioè, vabbè, ma chiedere scusa ci sta. Solo Fonzi non chiedeva mai scusa. Che vuol dire? Ma non vuol dire niente. Solo ma cosa Fonzi chiedi scusa di una cosa in cui credi? Diceva, di una cosa in cui credi. Dai, no, ho capito, ma se uno magari è ecceduto, come ma dite no, voi. No, ma ho capito, ma se hai detto quella roba e si deve riconoscere credi, no? Di aver sbagliato. È come se tu metti in imbarazzo una persona, dire guarda, scusa, mi sono messo in imbarazzo, o se ti ha creato imbarazzo ma quella non determinata. Ma non vuol dire niente. Stai buono, se qualcuno dice guarda scusami, ti ho messo tesoro in imbarazzo in questa situazione, ti chiedo scusa, ci sta, no? Ti è mai capitato di mettere in imbarazzo qualcuno di qua? Guarda, dice scusami, pensavo ma di farti cosa gradita niente, e invece ti ho messo in imbarazzo, ti chiedo nulla, scusa, dai, ti chiedo scusa. È bello dire scusami, tesoro, scusami. Ma non c'entra ti ho messo niente, in ma quella è una cosa privata. Ma non è privata. Quella è un'idea, infatti, che lui ha detto. Questo è un fatto politico. Infatti, questo è un fatto politico. Se lui pensa di aver sbagliato, di aver offeso qualcuno, è giusto che ma dica scusa. Dovrebbe rinnegare quello che ha detto. Dovrebbe rinnegare, pare, ma no. E infatti è come se l'avesse rinnegato. Ma non è vero, no? Non è vero, dai. Su. Comunque, chiedere scusa e dire scusami, vabbè, ti ho messo ragazzi, in imbarazzo, dai, mi dispiace. Comunque, non Berlusconi. Praticamente è il socio del governo Gentiloni, mi sembra abbastanza chiaro, dai, insomma, ce l'ha detto Feltri ieri, da porta a porta, proprio clamoroso quello che è uscito, dai. Io Gentiloni lo considero una persona per bene, una persona leale, e anche nell'approccio con gli altri capi di Stato e di governo penso che possa funzionare di più. Cioè col capo del nuovo capo del PD, cioè del governo in realtà, no, del PD, che è Gentiloni, dice persona per bene, persona leale, una persona che può funzionare quando va all'estero, eccetera. Del suo alleato Salvini invece? giovane comunista Salvini rimane ancora saldamente radicato in lui e quindi molto spesso ha delle uscite che non sono apprezzabili. Guarda che incredibile sta roba qua, cioè, poi a un certo punto dice: sai che non sento niente io, Vespa, non sente nulla, non sente più. Beh, è normale però, Lei è l'azionista di riferimento di Fininvest e di Mediaset. Quando, piacendo al Signore, l'anno prossimo tornerà a presentare il mio prossimo libro, lo sarà ancora? Sa che non si sente niente stare qua. È vero, non sente niente. Non riesco a decifrare le sue parole. Deve sussurrarmele all'orecchio. Forse dipende dal fatto che la vecchiaia mi ha reso anche un po' sordo. Per Gaspare, che stai facendo? Stai mangiando? Stai pisciando? No, sto bevendo un goccio d'acqua. No, pazzesca, perché non vale mai. Sto bevendo un goccio di acqua. Però c'è tutto questo per farsi presentare il libro, praticamente. Sì, sostanzialmente. C'è tutto questo giro di cose per farsi presentare il libro. Sì, sostanzialmente. Amico mio. Per Gasparri, comprare bambini è un reato, fa schifo. Chi è questo? Gasparri, signor Gasparri. Gasparri? Senti. Ogni tanto pronunci dei nomi che non... Ma dai, su, non fare il buffone. Gasparri. Vai. Comprare i bambini da gente che li partoriscono per venderli è un reato, oltre ad essere uno schifo, punto. Quindi dopodiché uno per aiutare dei bambini può farlo in mille modi, anche se agiato e benestante, faccia della beneficenza, anch'io faccio della beneficenza. Vabbè ragazzi, dai, Stefano Ravenna, vai Stefano. Allora, volevo tornare su quello che avevi detto prima sul adorare il Dio denaro, il Papa, eccetera. Sì, non sa a me difendere il Papa, che sono cazzi suoi. Ecco, appunto. Ma fra adorare e trattare sono due verbi diversi. L'italiano lo conosci, il tuo collega lì, Pariani, per cui... No, Pariani, dire, Pariani che sì, Pariani ottimo, e Concetto lì, voi due, insomma. Sì, come siete messi? Cioè, fra i due verbi... Non ho capito, che vuol dire come siete messi? Non ho capito. Che siete lì che conducete il programma. E allora? L'uso dei due verbi è diverso. Se tu tratti Facebook, non adori Facebook. Se tu tratti informazione, se tu adori l'informazione o Facebook o il denaro, penso che sia lì la segnalazione che Bergoglio lancia, non tanto sul fatto che... Senti, amico mio, ma non c'entra trattare... niente. Quando uno parla, no, quando uno parla, no, del Dio denaro, e il Papa dovrebbe anche voltare le spalle. Dice: beh, io sono in un posto dove si adora il Dio denaro, dove c'è un sacco di ricchezza, un sacco di sfarzo. Anche io abito in un mondo di merda e non mi evita di condannare il mondo di merda. Cioè, ma dire, no, ma in quel caso, ma in quel caso, no, scusami, amico mio, ma in quel caso lui maneggia il Dio denaro. Maneggia, è là a casa sua, c'è la chiesa, ha un sacco di quattrini, un sacco di appartamenti, grande sfarzo, e allora una banca, un sacco di roba. Allora ti dico che non adorare, l'invito a non adorare il Dio denaro. Ma che vuol dire? È come se uno... tu l'hai detto all'inizio. Ma il Papa lo dice sempre, ma dovrebbe guardare, dovrebbe adorare e usare. Capisco la differenza dei due verbi, dopo penso anche te. C'è un sacco di gente nella chiesa che adora il Dio denaro, adora il Dio denaro. Ma l'ha detto lui. No, nella penso chiesa no. D'accordo. Vabbè, no, Marco Dalodi, hai rotto i coglioni, dai, Marco Dalodi. Marco, vai. Niente, sono solidale con il figlio di Poletti. Perché? Perché l'hanno minacciato? Perché cosa? Non ho capito. No, perché in Italia funziona così. Le testate più autorevoli in Italia prendono sovvenzioni dallo Stato. Sì, ma sono altre sovvenzioni, amico mio, dai. Sono... Vabbè, però... funziona così. Sì, ho capito, va bene, ma il sistema di che cosa? Cioè, non ho capito, il sistema di che? È il sistema italiano, tanto non abbiamo problemi, ok? No, ma non ho capito in che cosa sei d'accordo, non ho capito cosa... Sono d'accordo con il fatto che ha preso dei soldi, tanto li prendono tutti. Sì, va bene. In Italia funziona così. Roberto da Roma, dai. Così come? Ma che ne so, Roberto, mi so straparla, come, dai. Come. Dimmi. Al volo. Mauro, ci vuole una moglie che sta alle 5 di mattina, se fa... No, ma devi stare tranquillo, devi stare calmo. Dunque, allora, andiamo con ordine. Dunque, la moglie... con ordine. Ieri sera alle 11:30 mi metto a letto, arriva mia moglie e mi dice: te sei lavato? Mi dico, francamente, sì. Mi ha detto: non mi prendere per il culo, ha preso e se n'è andato a dormire da là. Ma uno può fare così? No, non lo capisco, spiegami bene però, amico mio, spiegami. Allora, bene. Perché si vede che lei è uno sporcaccione. Allora, a parte ti dico che mi fai tagliare proprio tu, mi fai proprio tagliare. Va bene, però... d'accordo, questo è un altro discorso. Roberto, Roberto e non so chi, come si chiama tua moglie. Roberto, non posso dirlo, dai. Vabbè, diciamo Silvia, Roberto e Silvia. Bravi, tu allora, arrivi a casa? Faccio? Io arrivo a casa dal lavoro e sì, mi metto subito il pigiama, faccio il vago, vado un attimino in perché bagno, devi fare il vago? Finta, vago perché faccio cosa? Il vago perché faccio finta di andare al bagno che mi sono fatta la doccia, capito? E invece non te la vuoi fare? No, due palle, guarda, una cosa tremenda. Ma hai ragione, non ti do torto su questo, allora, qua. Cioè, senti, tu arrivi da una giornata che fai sporco, sudato, che no, fai? Vendo automobili, quindi faccio un buon lavoro con la cravatta, eccetera. Però comunque sudi. Ma neanche dall'estate sì, come un porco, però l'inverno no, dai. Vabbè, l'inverno no, però comunque c'hai addosso, come dire, l'odore del lavoro della giornata. Hai mangiato, hai bevuto, hai incontrato persone, stretto mani, mandato a fanculo dalla gente, ti sei incazzato, avrai fatto qualche cosa. Assolutamente, però due palle farti la doccia. Per cui sei arrivato e giustamente dici non mi va di farmi la doccia. Parenzo, bisogna dare, non è del tutto sbagliato. Io penso che la signora abbia fatto benissimo a cacciare dal suo letto il marito puzzolente e sporcaccione. No, aspetta, ancora non hanno raccontato nulla, scusa Roberto, allora non ho capito che cosa. Allora alle 10:30 mi metto a letto e faccio e gioco col bambino, no? E bambino, mia moglie mi dice subito abbassa la televisione, perché quando si mettono a letto fanno proprio due palle piene, e io abbasso la televisione. Ma che ora era, scusa, per curiosità? 10:30, 11. Che vai a letto alle 10:30 tu? Sì, io l'ho tutto il giorno, mi guardo un po' la televisione, mia, faccio ragazzi, un po' di zapping, mi addormento per mezzanotte. Te credo che poi sei incazzato come una bestia, ci avrai tre amanti, due mignotte a disposizione, sicuro. Ma 100%. No, ma poi due mignotte, poi ti dico la testa che c'ha, vabbè, lasciamo perdere. Si mette a letto e mi guarda e mi dice, ti sei lavato? Certo che mi sono lavato, faccio io. E mi guarda e mi dice, non mi prendere per il culo, ha preso i cuscini e se n'è andato di là. Beh, ma è amico mio, sono purtroppo le difficoltà della vita quotidiana, della convivenza. Però perdonami, no? Sì. Ma secondo te, ma è normale che uno sta alle 5, sì, perché vai al lavoro e ti fai la doccia? Solo che entri in quella doccia che apri l'acqua ti deve prendere in corpo. Poi torni alle 4 del pomeriggio e ti fai la doccia. Ma hai ragione. Alle 11 ti fai un'altra doccia, ma quante docce te devi fare? E poi ci lamentiamo delle bollette astronomiche. Vabbè, adesso non è quello il punto. Ma com'è finita la storia? La storia è finita che mi sono dovuto alzare dal letto e alle 10:30 andiamo a fare la doccia. La doccia? Vabbè, allora hai capitolato praticamente. No, lo sai perché? Perché sennò mi porta il muso per 3-4 giorni, capito? Giulio da Milano, ciao. Ciao Roberto, Giulio. Giulio. Ciao Giussani. Dimmi. A posto? Bella. Volevo parlarti di una cosa. Tutto a posto, sì? Bella. Ma che vuol dire? Ciao, ti voglio bene anch'io, ciao. Ciao, bella, sì. Andiamo, dimmi. Prima hai detto che l'aiuno è assiso al Papa, non so che fa col Papa, insomma, è influenzato dal Vaticano. Allora? Insomma, pure te in qualche modo sei influenzato dal Vaticano, perché ogni ascoltatore che arriva e poco poco dice una bestemmietta così, lo cacci subito. Ragazzi, allora, non è che lo caccio subito, qui c'è un confine abbastanza chiaro, cioè che è quello, come sapete, in realtà è un confine piuttosto labile questa trasmissione. Ce n'è uno, sì, ma ce n'è uno, ma ho capito, ma ce n'è uno invalicabile, cioè altrimenti diventa un inferno. Io non mi sconvolgo, ovviamente. Solo che non si può bestemmiare, punto e basta. Cioè, è abbastanza semplice. È successo qualche volta, per caso, per puro caso, per carità, e per abbiamo carità. Chiuso il telefono, perché altrimenti capisci che diventa un inferno. A parte che poi si può discutere del perché è così. Ne possiamo discutere fino all'infinito, ma è così. Cioè, è così. Ma non sta scritto. Ma che vuol dire? Dai, su, dai, fermo. Stai zitto. Una trasmissione è diventata ormai patetica, patetica. Quel nano di Parenzo che non chiude mai quella fogna di bocca, vergognatevi. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Cucciani, da Veneto mi vergogno di quegli idioti rincoglioniti della Lega Nord, Lega Veneta e tutte le leghe di questo mondo, ed è quella rincoglionita di Lores e del suo Veneto autonomo. Del Veneto autonomo non me ne frega altamente un cazzo, svegliamoci e mandiamo a cagare questi personaggi fanatici di non so cosa. Il grande ritorno del del peggio di Radio Calabria, ex Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Ma quando sento Cruciani e Parenzo, credimi, mi si rivoltano le budella, mi si rivoltano. Perché questi qui sono bravi soltanto a fare i soldi e far pagare agli italiani tutto quello che loro si stanno prendendo. E sembra quasi che vogliono conquistarsi il posto in paradiso, non so perché, ma per me degli infami così ce ne sono pochi. Infami, perché attiriamo così, così Musa, tanto odio? Chieditelo, chieditelo. Per come mai? No, ma dagli ascoltatori di Radio Calabria, ex Radio Padania. Quelle perché sono medaglie. Io le considero medaglie al merito, quelle. Senti, lì. Spero non si facciano medaglie, accordi con banda di prostitute di Forza Ladri, credo che sia Forza Italia. Ah. Io mi auguro che questo sia definitivo nei confronti di ancora di quelle volpi, di quegli intelligentoni che vorrebbero fare l'accordo ancora con quella banda di prostitute che chiamano Forza Ladri. Libertà. Non c'è un bel clima nei rapporti Lega Forza Italia, Non c'è un bel clima. Senti, altro ascoltatore di Radio Calabria, ex fu Radio Padania. Già Radio Padania, devi dire, già Radio Padania. Io ringrazio mio destino d'esser nato marocchino. Qui ci abbatto allegramente senza far niente di niente, così oggi e pur domani, grazie ai stupidi italiani. E se Allah bene mi prega, io continuo a far una sega. Ma se alcun ci mette il bec, col coltello vienta rec, e sarà per noi gran festa nel tagliargli via la testa e magari poi le mani agli stupidi italiani. Salam alek, salam alek, salam alek alek. E questa non è male, però devo dire un la verità, concentrato, un concentrato di razzismo schifoso. Non di... è male, devi ammettere che c'è della genialità. No, no, non ammetto nessuna genialità, ammetto che è un concentrato di razzismo schifoso, vabbè, di stupidaggini, dai, su, io la metterei. Ma come si devono sentire i figli di Abdallah Kabakebji e di Khalid Chaouki? Ma perché devi per fare odiare alcuni? Tu devi fare odiare queste persone. No, ma anzi, che cazzo me ne frega dei figli, io voglio dire, con tutto io rispetto, vergogno di Abdallah Kabakebji, questo, dai, questo siccome dentista siccome Khalid siriano. Chaouki è italiano, mi dispiace per i suoi figli che devono sopportare e sentire tutto questo, sì, sopportare con che faccia loro che sono di fede islamica, ragazzi, bambini straordinari, vanno a scuola la e c'è gente che dice queste porcherie. Non vogliamo risentirla, sì, io, no, io vado via allora. Vai, io tolgo l'auricolare, dai, tolgo le cuffie, cazzate, dai, su. No, non voglio sentire, ma quella è la poesia, porcheria. Ma è Radio Padania, allora io abbasso quando tu mandi quella roba, abbasso. Io abbasso perché è una porcheria. Togliti la cosa, togliti quella le cuffie, è immondizia. Togliti le cuffie, togliti le cuffie. Ma certamente che tolgo le cuffie, ma quella è immondizia. Risentiamo la poesia. No, devi far dire che quella Radio Padania è una immondizia. L'hai detto mille volte. Ma mai troppo, è un'immondizia quella radio, è un'immondizia. Risentiamo la poesia che comunque risentiamo di razzismo, togliti la cuffia, togliti la cuffia. Ma certo che me la tolgo. Poesia. Andate a quel paese. Io ringrazio mio destino d'essere nato marocchino. Qui ci abbatto allegramente senza far niente di niente. Così oggi e pur domani, grazie ai stupidi italiani. E se Allah bene mi prega, io continuo a far una sega. Ma se alcun ci mette il bec, col coltello vienta rec, e sarà per noi gran festa nel tagliargli via la testa e magari poi le mani agli stupidi italiani. Salam alek, salam alek, salam alek alek. Puoi rimetterti le cuffie, David, puoi rimetterti le cuffie. Chi è? Puoi rimetterti le cuffie. No, ma continuano, il peggio di Radio Calabria, già Radio Padania. Guardava. Lasciala perdere quella zanzara, digli che vadano loro via da quella radio, ma alla velocità della luce, perché sono loro i pezzi di merda completamente. Come una madre e un figlio. Sono andato al supermercato, davanti a me c'era un'islamica, tutta elegante, ben vestita, col suo bel foulard in testa. E ha riempito il carrello di roba di maiale, ci ha messo salsiccia rollata di maiale. E le dico, signora, scusi, ma lei non è islamica? Ah sì, ma non è per me, per un'altra signora. Ma chi pigliate per il culo, islamici? Ma chi pigliate per il culo? Ma io non ho capito. Che bel racconto della signora Padana. Ma io non ho capito. Ma che racconto? Ma cosa fatti guarda cazzi nei carrelli degli altri? Ma fatti i cazzi tuoi. Ma fatti i tuoi di quelle quattro porcherie che compri. Ma che cosa vai a guardare nei carrelli degli altri? Ma che razza di racconto è? Che testimonianza è? Che roba è? Ma dai, a rompere le palle alla gente che va a guarda nei carrelli degli altri. Andrebbe denunziata, è una guardona. Va a guardare nei carrelli degli altri. Chi prendete per il culo voi islamici? Ma scuola, dai, ma che gente, ma che gente, ma io vorrei vederli in faccia sti miserabili che chiamano. Ma che gente brutta, ragazzi, è questa? Questa oggi è una rubrica lunga. È Barin, Barin, irrompe anche tu, lui, Barin. Radio Calabria, già Radio Padania. Adesso ascoltate anche un po' la Zanzara, per favore, altrimenti Cruciani e Parenzo gli abbassano lo stipendio. Esatto. E loro, se non hanno il portafoglio più che gonfio, piangono. Ma quando vanno a casa piangono e picchiano la moglie. Beh, quell'altro che era Pellegrin, no? L'altro era Pellegrin, quello che dice che preferiva la mafia allo Stato, signor Pellegrin. Sì, quell'altro statista. Pellegrin. Statista. Il negrettino, Varin e il negrettino, senti. Nel CIE di Lampedusa è stato espulso alla maniera di Alfano. Fogliettino in mano, fogliettino, piro piro, tieni il fogliettino, bel negretto, tieni il fogliettino e voilà. E il negretto cosa se ne fa del fogliettino con scritto espulsione? Si pulisce il culo. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Il negrettino si pulisce il culo col foglio di espulsione, che è vero, tra l'altro, che è vero. Ecco l'altro, ecco l'altro, ecco l'altro. Ragazzi, ma la notizia di ieri, oggi, quello che è che in realtà quello che è il presunto attentatore di Berlino è stato in Italia tanti anni, ovviamente, no? Non è stato mai espulso, eccetera, eccetera. Era finito in carcere, poi è andato in Germania. Beh, sono praticamente un terrorista col permesso di soggiorno. Sì, un terrorista cosa vuol dire che questo? Abbiamo fatto scorrazzare in tutta Europa. Sì, liberamente avanti, in tutta Europa. Vai avanti, vai avanti, vai avanti. Significa cosa vuol dire? Che non riusciamo significa a cacciare. Significa che ti devi ricordare le parole di Angela Merkel. Cancelliere che tedesco, c'entra? Che ha 24 ore ma con il sangue. Silenzio. Con il sangue. Ma hai visto quella cosa su internet col sangue addosso della Merkel? Sì. Silenzio. Con il sangue ancora caldo sulle strade di Berlino, la signora Angela Merkel, con grande senso dello Stato, ha detto, due punti aperte virgolette, questo fatto non ci farà indietreggiare di un millimetro nella nostra politica di accoglienza dei rifugiati. Vabbè. Chiudiamo qua la trasmissione alle 19.43 facendo sentire in tedesco l'audio della Merkel. Barin, chiudiamo con Barin. Ma che chiudiamo? A parte non chiudiamo per niente. Barin. Che siamo ancora una volta schiavi di queste persone che considerano puttane voi donne, voi ragazze che ascoltate Radio Padania, siete tutte puttane per questa gentaglia, e noi continuiamo a farli entrare perché bisogna, cos'è che bisogna fare? Bisogna, dai, che lo sapete, accogliere. Allora, dove andiamo? Andiamo Federico da Treviso, vai. Federico da Treviso, però voglio citare prima dico il nome anche, una sconosciuta assolutamente, sulla ragazza morta italiana, no? Quella a Berlino durante l'attentato, certo. Pensa alle cazzate che vengono scritte. Questa povera ragazza, un nome a caso, ma ce ne sono diversi messaggi così. Questa povera ragazza è morta perché qui in Italia non ci sono opportunità per i nostri giovani. Mi domando quanti genitori dovranno piangere per colpa di persone che ci governano di merda. Allora, chi scrive queste cose qua è un coglione. Cioè, quella ragazza è morta per un attentato, non è che è morta perché è andata all'estero, imbecille. Dov'è? Dove andiamo? Dove eravamo? Federico, sì, Federico. Esatto. Federico, vai, dimmi. Sono qua, ciao a tutti e due. Vai, vai. Avete pisciato fuori dal vaso, ancora avanti con questa storia della signora Rosina. Oddio, è arrivato pure questo. No, è arrivato quest'altro. Tesoro, sono 3 giorni che mi provo a mettere in contatto. Me l'ero anche messa via, se non che arrivato. È fuori il discorso di Poletti. Sì, certo. È arrivato. Allora, vediamo, tirate fuori le palle. Allora, ma che vuoi? Fuori. Cosa vuoi? Ma aspetta un attimo. Cosa vuoi ancora? Fammi parlare. Avete tenuto testa, gente, politici, Sgarbi, Gaspar, guardate, mi tenuto testa, dipende. Sì, beh, insomma, sai, ci sai parlare. Ma qual è il punto? Commentare quant'altro. Il punto è che mi vieni a dire che Poletti dice una cosa, l'hai detto prima, dice una cosa, che pensa... Sei contrario al fatto che poi scusi, ci chiede. No, non ho detto che è sbagliato. Io ho detto il contrario, scusa. Ma cosa stai ho dicendo? Ho detto che questo? Sono due cose diverse. Noi abbiamo chiesto scusa su degli atteggiamenti che abbiamo avuto, non sull'oggetto delle cose, che non c'è nessun oggetto lì. Tu, cioè... scusa, voi stranamente per una volta eravate d'accordo, allora, eravate insieme. Allora, qual è il problema? Abbiamo chiesto scusa, allora che cazzo vuoi? Avete chiesto scusa. Abbiamo chiesto scusa alla signora Rosina. Dopo. Basta, non sei il portavoce qualche di Rosina, tu. Sono portavoce di Rosina. Siete stati. Allora? Come allora? Dunque? Non ho capito. Se non mi incalzi, ti spiego. Avete fatto la stessa identica volta faccia di Poletti. La stessa identica. No, per niente. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Se l'avrai la registrazione di quella serata. Ma lì ci sono, sono due cose diverse, amico mio. Dai, no, su, io no. Poletti ha detto un'altra cosa. Cioè, ha detto un'altra cosa. Ha espresso un concetto. Io ho chiesto scusa a Rosina per un comportamento. È diverso. Per un modo di fare. Voi avete chiesto scusa a Rosina perché c'è stata un'insurrezione in radio. Un'insurrezione in radio. Ma tu sei completamente fuori di testa. Non c'è stata nessuna insurrezione. Ti posso dire che io di quella. Vuoi sapere cosa faccio con quella petizione adesso che la stampo? Materialmente vuoi sapere cosa faccio con quella petizione? Il bidet. Che petizione? No, quello è troppo poco. Quello è troppo nobile, quella roba che tu hai detto. Ci si pulisce il culo con la petizione. Ma di più? Ma cosa di più? Fai? Di più di questo che no, quella del cane però, non il mio. Quando porti fuori il cane. No, no, quando il cane dei petizione online, le telefonate che sono arrivate, benissimo, le abbiamo accolte anche le tue, ci facciamo tirare le pietre addosso, dopodiché Non è per quello che abbiamo chiamato. Perché nessuno è il portavoce di questi due signori, chiaro? Appunto, bravo. Guarda che bravo. Io sto soltanto dicendo che avete fatto la stessa cosa. Ti sbagli. Assolutamente no. Ti sbagli perché io non rinnego una parola delle cose che ho detto alla Rosina. Non rinnego una parola. Rinnego. Il tono, forse. Per i modi. Ma il fatto usato. Che siano strumentalizzati, che i signori se indipendentisti. Se non vi arrivava neanche una telefonata di lamentela, non avreste chiamato neanche una volta. Ma cosa vuol dire? Ma poi è una cosa ormai superata, cioè, ma non ma dico... certo c'è un piccolo problema che qual è? Io non sono in tempo reale come siete voi. Vabbè Federico, ti ringrazio, ciao. Allora ragazzi, proviamo a chiamare il figlio di Poletti, dai. Si chiama Manuel Poletti, fa il giornalista, 42 anni, dice che ancora si deve laureare, ma questo non significa nulla, anche Parenzo non è laureato, per esempio. Nei giorni scorsi ha detto tante cose, che non rinnega nulla, che prende i soldi in maniera legittima, che il padre non si deve dimettere, eccetera, eccetera, eccetera. È spuntata fuori una cosa nuova, che oggi ha detto all'Ansa. Cioè, dice di essere minacciato, di essere stato minacciato di morte via web. Ora... magari se risponde al telefono gli dirò una cosa, non mi pare una cosa così strana, cioè è assolutamente normale, conoscendo il web uno se ne può anche fottere. Vabbè, comunque proviamo, dai. Pronto? Manuel? Sì? Ciao Radio 24, ti disturbiamo? Guarda, sì, 5 sono... minuti, solo 5 minuti, guarda, 5 minuti sulle minacce, sulle minacce, il resto abbiamo hai già dato. Ho già detto tutto all'Ansa. Appunto, ma che è successo di concreto? Guardate la mia pagina Facebook e quella del nostro giornale, capirete. No, ma ho capito, se mi puoi spiegare. Non ho nulla da aggiungere. Ma perché? Non ho capito, ti stiamo facendo delle domande normali. Perché questa violenza, secondo te, nei tuoi confronti? Non ho la più pallida idea, non riesco a trovare una motivazione seria per giustificare quello che mi è stato scritto sulla pagina Facebook e Manuel, come sai, su internet c'è di tutto, no? Cioè, anche a me mi insultano ogni giorno, anche a Parenza arrivano insulti, minacce di morte, eccetera, alle eccetera. Volte si denuncia. Non sarai stupito da questa cosa qua, no? Immagino che non sia una sorpresa, o no? Beh, in parte sì, perché non abbiamo fatto nulla di male e nulla di pesante per meritare questa gogna sul web. E quando si dicono certe cose... Adesso bisogna che vada. Ma perché ho capito, perché non puoi fare un'intervista normale? Non capisco. Non ho più intenzione di lasciare dichiarazioni, ho fatto questa nota all'Ansa. No, ma ho capito, ma non ti possiamo fare due o tre domande e basta, ti facciamo perdere 5 minuti. Ma insomma, non mi sembra una qualcosa di grave, cioè non è che ti abbiamo aggredito in maniera particolare. Ti stiamo chiamando in tutta tranquillità per farti 5 domande. Cioè, la prima. Possiamo come ti senti in questo momento, visto che ti hanno bersagliato con grande violenza? Perché lo hanno fatto secondo te? Mi sento, sono molto dispiaciuto e amareggiato per quello che sta succedendo. Non trovo una giustificazione decente per giustificare tutti i messaggi. Ma è fomentato da qualcuno questo odio, secondo te? C'è qualche responsabile, la stampa, una parte della politica, chi chiede le dimissioni di tuo padre? C'è qualche responsabile per questa violenza? Secondo me, per quello che posso capire, è un insieme di componenti diverse, non ce n'è una unica. Certamente il web e i social network sono diventati terreno molto fertile per questa violenza verbale. Secondo me è una cosa molto pericolosa, non solo per il mio caso, ovviamente, ma in generale. Hai paura? Per tante altre persone. Hai paura a girare per strada, tipo, sai? Certamente sono più preoccupato di qualche giorno fa. Sei preoccupato anche per la tua incolumità? Sono preoccupato anche per la mia incolumità. Senti, e delle persone che collaborano con te. Senti, ma non sarebbe il caso per questo clima che tuo padre si dimettesse? Assolutamente no. Cioè no, non si deve dimettere secondo te? L'ho già detto e lo ribadisco. Senti, un ultimo, hai chiesto la scorta? No. No. Un'ultima cosa, non ti senti un po' a disagio per i soldi pubblici che prende la tua casa editrice? Assolutamente no. Rispettiamo la legge. Quello sì, certo, ci mancherebbe altro. Cioè vanno tagliati, io ho detto una cosa ieri, che vanno tagliati tutti i fondi all'editoria, a mio parere. Secondo te io no? Io sono contrario, assolutamente. Lui è contrario, per esempio. Assolutamente. Ho già sostenuto sì. che il fondo pubblico per l'editoria è uno strumento in più per garantire una democrazia, per avere più testati sui territori e in tutto il paese. Dunque è giusto? Esiste in tutti i paesi d'Europa occidentali, lasciami finire per favore, in maniera molto più cospicua che in Italia. Sì, ma c'è stata una distorsione, cioè dare tutti questi soldi per chi vende mille... Fino al 2012 c'è stata una distorsione, dopodiché la legge Peluffo ha portato una grande pulizia all'interno di questo. Beh, comunque è giusto secondo settori. Te dare soldi pubblici per un certo tipo è di editoria? Per Costituzione. Ma no, la Costituzione non c'entra, dai, su, la Costituzione non c'entra, dai. Cioè, questa no. è una tua opinione, io ho un'opinione diversa. No, per carità, assolutamente. Senti, ma sei sicuro che tuo padre non abbia sbagliato? Tu hai detto già che ha sbagliato nei modi, no? Nei modi, eccetera. Ma c'è perché non tutta... voglio più tornare su questa Ma c'è una rivolta di un sacco di gente. Non voglio più di Allora, ho esaurito, mi sembra. No, d'accordo. Su cui mi ricredevate. D'accordo. No, d'accordo, però le cose sono abbastanza collegate, credo, purtroppo. È no? collegato a quello. Non sono assolutamente collegate. Cioè, questa violenza è esplosa all'indomani delle dichiarazioni. Buon lavoro. Ma secondo te ha difeso gli italiani tuo padre? Questo è interessante. Niente. Ah, ragazzi. Dai, Carmelo da Catania, vai, Carmelo. Cruciani e Parenzo, dimmi. Baciamo le mani, San Benedica, come si dice qua a Catania. Baciamo le mani, ragazzi. San Benedica. No, vai, senti, dimmi. Io volevo intervenire sul discorso che ha fatto il Papa sui comunque soldi, la cosa incredibile è che il figlio di Poletti rivendica dicendo che addirittura è previsto per la Costituzione che bisogna dare i soldi ai giornali così a babbo morto. Cioè questa è la cosa incredibile, cioè la Costituzione prevede che noi diamo secondo lui 500.000 euro all'anno al suo giornale che non conosce nessuno, diciamoci la verità, chi cazzo lo conosce? Questa è la cosa fondamentale. Sì, diamo soldi per giornali che vendono 3 copie, non dovremmo dare soldi a nessuno perché le cose sovvenzionate non vanno bene, evidentemente c'è qualche posto di lavoro che sicuramente viene salvato, ma è sbagliatissimo. E lui che cosa fa? Evoca è previsto nella Costituzione. Ma chi te l'ha detto che è previsto nella Costituzione? Non è vero, è sbagliato. Nella Costituzione non prevede affatto questa roba qui. Vabbè, chi c'è? Allora, abbiamo detto Carmelo, sì. Sì, sì. Allora? Senti, io sono un musicista qui in Sicilia, sei un a Catania. Vabbè, e scriviamo delle canzoni in siciliano per sputtanare un po' i politici e anche gli uomini di chiesa. Vabbè, e allora che vuoi per dire? Quello che ha detto il Papa, noi abbiamo scritto una canzone, io ho scritto una canzone. Ma cosa ha detto il Papa? Scusami, spiega. Sul danaro, sul dio danaro. Che ecco, hai scritto una canzone in tempo reale praticamente. Sì, vorrei se mi dai un attimino. Sì. Amico mio, però alla prima cosa che sento, perché si può dire tutto in questa trasmissione, alla prima cosa che sento, che sì, lo sai, cioè, No, non mi fare incazzare che ti venga a cercare coi forconi. Ma giù, assolutamente, ma figurati qua, che qua poi in Sicilia ci cercano tutti, non ti preoccupare. No, ma io ci cercano tutti. Io ho scritto una canzone su questa discussione. Sentiamo sta cazzata, dai. A parte i politici, poi arrivati, sono detto, un musicista, in questa canzone bellissimo. Si dice questo, in questa canzone ho scritto questa. Uomini di chiesa. Di crirui e pintementi, stennite un bello bianco sopra la povera gente. Facetevi la croce con tutti i sentimenti, che ricchezze che avete non ci servono, santi. Che vuol dire? Traduci? Te lo spiego. Cioè, non hai capito Non è che è una canzone. No, io un po' l'ho capito. Qualcosa ho capito io, naturalmente. Però è una canzone. Ma non è una canzone, sono Durighe. Che canzone? Non te la sto cantando. E cantamela allora. Sono impreparato. Ma scusa, la vuoi sentire dall'inizio? Dall'inizio? Dice... Sì. Non ero preparato a doverla cantare. Comunque, non era forza. Perché telefono? Studamali si luci, per non vedere cruci. Briagamani di sonno, per non sentire frastorno. Non leggiamo più i giornali, notizie sempre infernali, l'uomo muore a mille e i piccirilli come angidi. Passatevi la mano sopra coscienza lorda, omnipotenti, canon bei tenenti, a vuota casa luci di ore di brillanti, a panza vitichina e a mano carrimina, un solo pensiero aviti, rifuttere e comandari, bagnorno contata a dai, addio all'auto santi. Uomini di chiesa, di crire e pentimenti, stennite in bello ianco sopra povera gente. Facetevi la croce con tutti i sentimenti, i ricchizi capiti non ci serve né santi. Allora ragazzi, io ti dico, solo una cosa, caro amico mio Tacatari. Sì, vabbè, ma... Se tu hai intenzione di campare, perché dici fare musicista. No, però non è male, dai. Questa roba qui. No, incoraggiamolo. Questa roba. No, incoraggiamolo. No, l'arte va sempre incoraggiata. Allora io dico una cosa, poverino, se hai intenzione di campare con una canzone del genere, amico mio, credo che tu abbia sbagliato mestiere. Te lo dico con affetto, con sincerità, per carità, va bene, e cioè, ma non credo che tu possa riuscire a campare. Ma sei ingeneroso, questa... insomma, dai. Cruciani, ti volevo dire che adesso devo andare in palestra, io che cosa faccio? Metto la zanzara così pompo di più i muscoli, sì. La zanzara. Un tempo le domande importanti per me erano: esiste Dio? Cosa c'è dopo la morte? La religione ha un senso? Chi ci ha creato? Ma da un paio di giorni a questa parte, solo una domanda per me è fondamentale e la pongo a tutte le persone più importanti della mia vita ed è la seguente: ma tu, l'uccello ce l'hai, sì o no? Questo, caro Parenzo, riprendendo un'intervista fatta nei giorni scorsi, un intervento di un'ascoltatrice transessuale che non si capiva bene, c'era una confusione se c'aveva l'uccello sì o e no. E tu cioè, hai voluto chiarire quel punto nodale. Era abbastanza in dubbio la cosa, no? Meno ma un protagonista, fatto, ragazzi, a borse chiuse. Un protagonista di questi giorni è stato sicuramente Corrado Brin. Voi direte: chi è Corrado Brin? Ecco, sì, ce lo chiediamo. Corrado Brin tanti. È un signore comune, una persona comune, il quale, anzi, un ultranazionalista, direi anche un fascista dichiarato, il quale, ricordate, è stato denunziato. Da te è stato denunziato? Certamente. L'hai già denunziato, non l'ho capito. Per le sue parole. Tu mi hai chiesto stamattina, nella giornata di oggi, che cosa ho fatto. Nella sei andato a denunciare oggi, che cazzo c'è? Sei la prima cosa che ho fatto stamattina è mettere le gomme da neve sulla mia macchina. E poi sei andato a denunciare Corrado Brin. La seconda cosa che ho fatto è fare colazione. Vabbè, ho preso il pandoro. Avevo a casa un pandoro poi? E ho mangiato. Sono tornato a casa dopo aver messo le gomme. La terza cosa che ho fatto è stata dare il latte al bambino più piccolo. E la quarta, prendere tutte le carte, i documenti, recarmi alla polizia, nella zona nella quale abito, al commissariato più vicino, e a denunziare il nazista fascista per minacce, tentata aggressione verbale. Assolutamente sì. Quindi 2017, caro Brin. Ci vediamo in tribunale, le verrà presto notificata una bella indagine. Allora, per lei. Corrado Brin è figlio di un farmacista che si chiama Cesare Brin. Figlio non mi interessa, ma lo possiamo anche immaginare. Il quale? Tutti. No, ma non mi interessa. Ha una storia incredibile. Mi interessa. No, ma è importante questa cosa. Avrà tempo di studiare la sua storia. Te la ricordi l'amante? Ma non mi interessa niente. Era stato l'amante di Gigliola Guerinoni, Cesare Brin, padre di questo signore, con cui abbiamo battagliato nei giorni scorsi. Ecco qui un piccolo sunto, ragazzi, importante. Ero abbastanza nervoso. E che hai fatto? Ho demolito tutto. Hai demolito tutto? Ho demolito tutto, orgogliosamente ho demolito tutto. E questa mattina sono andato con la vernice spray davanti allo stadio e ho scritto: la politica dell'integrazione, dell'accoglienza provoca le stragi come a Berlino. Ha demolito tutto lo stadio perché giocava una squadra di colore. Corrado Brin. Un mezzo matto, ragazzi, diciamo la verità. Lo spogliatoio, ho sfogato la mia lama in questo modo. Vabbè, ma sarai denunciato, no? Ma che cazzo mi frega a me? Ma non me ne fotte proprio assolutamente niente, sono orgoglioso, anzi. Cioè, a parte che per questo non ci sono gli estremi per fare della galera. Sì, avevano tutte Nike e Adidas e cos'altro, scarpe che sono da 200 euro, ho giocato a calcio una vita, scarpe da professionisti con tanto di allenatore. Siamo allenatore, certo, per giocare a pallone. Possiamo prendere per il culo dalle cooperative, perché questo è un business per le cooperative, è voluto da questa Europa di merda, da questo patto giudaico-massonico. Ma che c'entra il patto giudaico-massonico? Forti, per farci invadere dei clandestini per abbassare il costo del lavoro. Corrado Brin. Sei anche un po' fascista? Assolutamente sì, sono sempre stato fascista, lo sono e lo rimango. Cioè Mussolini ha fatto vedere combattere. Mussolini, io la fotografia del Duce ha fatto, in ha fatto mia. Che è in camera tua, scusa? La foto del Duce in la camera foto mia. Del Duce. Voto Salvini aspettando Mussolini, nuovo Mussolini. Questo è buono, questo è buono, questo è buono. Questo fuori dubbio. Questo io voto Salvini, aspetta, la cosa del nuovo Mussolini. Sì, okay? Bene. No, io dico fermatelo, ma fermatelo subito, voglio gli estremi di questa Parenzo persona. Parenzo, te lo prende nel culo, figlio di puttana. Ma cosa c'entra? Vabbè, per denunciarmi, così. Parenzo, figlio di puttana. Ma che cos'è sta roba? Ma sei impazzito? Di merda, comunista del cazzo, hai capito? Ma sei impazzito, sei. Al tribunale. Ma sei pazzo, ma sei. Che io del tuo tribunale mi ci sciacquo i coglioni e poi ti faccio bere l'acqua. Hai capito? Ma e tu sei un comunista di merda. Ma cosa c'entra? Corrado! Un pedofilo, tu sei un pedofilo. Che c'entra? Ma che c'entra pedofilo, scusa? Ma che c'entra pedofilo? A quattro occhi ti gonfio, ti faccio una faccia talmente gonfia. Ma sei impazzito? Continua con di merda, figlio di puttane. Ma perché? Ma sei impazzito? No, lascialo andare avanti, che così mi diverto. Sacco di merda, divertiti. Giovinezza. Primavera, bravo, di bellezza, bravo, con la gioia, bravo, con la spezza, questo canto squillava. Bravissimo. Hai capito? Brin, bisogna chiamare. Coglione, stupido. Tu odi i neri. La realtà è che tu odi i neri. Sacco di merda. Tu odi i neri. Sacco di merda, ma io odio i coglioni come te, stupido. Ma io che c'entro, stupido, scusa, non capito. Odio i coglioni come te, imbecille. Ma tu sei fuori di testa. Ma tu sei fuori di testa. Buonista del cazzo, la tua politica. Comunista del cazzo, a Berlino, figlio di puttana. Ma che c'entra un estragi? Perché non manco si sa chi è stato. Non sai nulla. Ma morissi veramente, coglione. Sei finito. Hai tutte le tue denunce, Radio 24. Io gli voglio comunicare che sta per arrivare la denunzia, però diglielo. Le voglio non comunicarglielo così, cioè sì, alla radio, come no, io non gli parlo. Non posso parlargli, mi ha detto l'avvocato. Ah, ha detto così l'avvocato, allora ci parlo sì? Io. Allora, non gli parlo. Fai finta che non ci sei, eh? Sì, sì. Non gli posso parlare, mi ha detto così l'avvocato. L'avvocato ha detto. Certo, ti assicuro. Ho parlato con uno dei miei avvocati, sai che io ho tre avvocati. Aspetta, certo, stai zitto. Certamente. Poste Mobile, servizio di segreteria telefonica. Poste Mobile. La persona chiamata è attualmente a Rebibbia. Si prega a richiamare tra qualche anno. La persona chiamata al momento è trattenuta nel carcere di Rebibbia. Si prega a richiamare. Il nazista da lei chiamato è attualmente rinchiuso nel carcere di Rebibbia. Rebibbia, nonché sedato perché disturbato di mente. Si prega a non richiamare perché tanto non esce. Così è. Tell this me. E qua sta dicendo un messaggio chiaro e ti veniamo a prendere anche tu. Ma chi viene a prendere? Chi viene a prendere? Ma il potere come te che si fa. Ma questo sacco di merda. Oggi hai scritto la tua condanna. Sacco di merda. Sacco di merda. Sacco di merda. Sacco di merda. Vabbè, questo è pazzo. Questo è pazzo. Corrado. Fermi tutti. Corrado. Tu non sei una. Sei zitto che non sei una persona stabile, non sei stabile. Un sacco di merda, uno schiavo del potere sei. Ma con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Con chi? Con tutti e due. Ma... Poste Mobile, servizio di segreteria telefonica. L'utente chiamato è momentaneamente rinchiuso al carcere di Ribibbia. Il nazista non risponderà per i prossimi anni. Grazie, non richiamare. Sufjan da Aosta, Sufjan, ogni chiama volta gente, che trova uno, dimmi chiama gente cosa, hai appena mandato in onda la cosa di uno psicopatico e scherzi sul nome di un simpatico, sicuramente, so, o comunque di Sufjan. Una comunque va bene tutto, per carità, Sufjan, dai, sei di una simpatia, dimmi, guarda, tu sei di una simpatia, tu sei simpatica, tu a quello che ho sentito prima, sì, tra Radio Padania, che dice quella bellissima canzoncina, o sì, come vogliamo definirla, sì, sì, oscena, sì. Allora, oscena, io volevo oscena solo dire, sì, e far presente a tutti quelli di Radio Padania, tutti, sì, Padania, che non si può fare di tutta l'erba un fascio solo, ecco, perché uno, ecco, è nato da una parte o più che altro. Ma, non so, ma perché ce lo dice, no, a noi, scusa? No, perché è quello che non rientra... Sufjan, nel... ma tu che sei? Maroc? Ecco, Tunis? Io, io padre marocchino e madre francese. Mm. Ah, tu essere marocchino, eh? Tu essere... Sì. E vivo tu qua essere, da vedi, parla italiano perfettamente, dice tu essere marocchino. È incredibile. Cioè, il la cosa proprio è incredibile, è più forte di lui. È più forte di lui. Cioè, vedi, no, un nome straniero... Certo, dice, ma tu hai allora mangiare banane? Ma ce non mangio banane per niente. Beh, mangio il Kusman, mangio la polenta. Ma tu, Marocco? Marocco parlare? E quello ti dice, che cazzo parli così? Cruciani, che cazzo, perché parli in questo modo? Ma guarda che è incredibile, sì, però, però. Senti, sei proprio, senti, il prototipo dello stereotipo. Sì, però sei, senti guarda questa che bello, cosa, il prototipo, sì. Parole, ok, allora, andate a googolare la parola prototipo, sì. Chiedo scusa, scusate. Prendete, no, Google. No, non c'è bisogno. Io no, non dico a lei, lei, senti, so Nur Alam, che senti uno che si chiama Nur Alam, ecco, il signor, ecco, Nur Alam, signor Nur Alam. Nur, aspetta, aspetta. Nur, e che vuol dire? Aspetta, senti che dice. Vuol dire sole, luce. Senti, senti. Può essere vero che ha detto Allah, però ho sentito anche proprio non credenti atei dicono grazie a Dio che io sono ateo. Capisci, signor Nur Alam, che vive in Italia, è vero che ha detto Allah è grande, cioè l'attentatore, no? Allah è grande, gli attentatori in generale, ma anche da voi avete gli atei che dicono grazie a Dio, ma che cazzo vuol dire, scusa? Sì, questo non vuol dire, cioè, questo è un coglione, questo Nur Alam, scusa. No, è suo coglione. Ma è un coglione se pensa così. Ha detto una cosa, no, è modo così, di parlare, sciocca. Nulla a che vedere, senti, senti ancora, Nur Alam. Noi non siamo mai d'accordo quando accade questo tipo di situazione e subito collegano con la religione islamica. Nulla a che vedere con fede islamica. Nulla a che vedere con fede islamica, capito? Poi combatte con Gasparri, lei dovrebbe essere arrestato. Eccola Gasparri, sì. Lei quindi è pericoloso come il terrorista. Allora, posso parlare? Lei dovrebbe essere arrestato, sì, alla fine di questa per trasmissione. Favore, quando parlo, sì, nessuno, sì, sì, va bene. Perché dovrebbe essere arrestato alla fine della trasmissione? Sì, non si capisce. Signor Nur Alam. Ma cos'è che ti fa ridere? Se forse Nur? Perché Nur, non lo so, perché mi fanno ridere questi nomi? Signor Giuseppe Grugiano. Fa ridere. A me fa più ridere il signor Grugiano Giuseppe, che pensa sempre, parla sempre del sesso e pipì nel lavandino e si non lava capelli, signor, senti, Giuseppe, senti, Grugiano. Senti, senti. Vabbè. Mi spieghi cos'è il jihad allora? Dice cos'è il jihad? Si jihad, jihad significa sacrificio per avere i tuoi diritti. Jihad non significa uccidere la persona. Sacrificio. Guerra santa. No. Assolutamente no. Sono. Guerra abbi santa, parole usate voi. Abbi il coraggio almeno. Guerra vi santa, devo, parole usate voi occidentali. Lei dovrebbe, posso parlare, cacciato dall'Europa? No, sì, la mia, allora, domanda è perché non prendono una jihadista islamica in vivo? Perché no? Perché non la prendono vivo? Allora c'è un complotto. Vabbè. Allora perché non prendono vivi? Guardate, adesso dice? Vi faccio vedere, guardi, invece, complotto, la storia, la storia di un tunisino che guidava il centro islamico a Como. Ma scusa, questo Nur Alam è veramente un deficiente, però. Perché non prendete un jihadista vivo? Amico mio, si fanno esplodere, cioè si fanno. Cioè, arrivano. Scusami, la ma chi è questo Nur Alam? Cioè, ma non lo so chi è, ma non lo so chi è Nur Alam. Queste... Viene invitato dalla vostra parte, signor Nur Alam. Chi vuoi che. Non lo so chi è Nur Alam. Sufjan, che vuoi, Sufjan? Mi spieghi una cosa, perché, ecco, continuano sempre cosa? A invitare, dimmi, gente che deve rispondere sull'Islam e su queste, sì, cose qua che. parla. Vabbè, ma ragazzi, ma quelle devono fare trasmissioni, no? Sufjan, no, scusa. Non è questione di trasmissione. Su, che vuol dire Sufjan? Dai, chiediglielo. Che vuol dire Sufjan? Chiediglielo. Perché non si fa esplodere? Chiediglielo adesso questo qui. Dai, vai avanti, forza. Che vuol dire? Allora, dai, diglielo. Allora, forza, dica. Dai. No, ma io la difendo, io figuriamoci, guardi, ormai sono rassegnato. Che cosa a sto vuol modo. Dire sto Sufjan? Sufjan nella religione islamica, ecco. è l'ultima persona, sì, che si è convertita all'Islam con Maometto. Bellissimo. L'ultimo. Vabbè, bene, un nome evocativo. Voi islamici volete convertire tutti, diciamo. Ma che, eccolo, no, lì, che arriva. Come no? Sì. No, io pensano che l'Islam sia la religione rivelata e quindi tutti devono tornare all'Islam. Questo loro pensano, tornare. Ma se uno non vuole tornare, rimane dov'è. Io rimango dove sono, ad esempio. Quanti mogli hai? Eccolo lì. Quante mogli hai? Io ho 26 anni. E fino a... ho convissuto 5 anni con una ragazza italiana che mangiava maiale. Vedi. Vabbè, ma tu sei integrato, tu alla fine non sei manco religioso. No, ma io prego. Non te ne frega niente volte. Di no, ma che io prego 5 volte al giorno. Ma sì, ma come giocare alla PlayStation? Dai. Ma come perché lo tratti così? Dai, su. Ma perché lo tratti così? Scusa, fino in fondo. Ah, sì. Io mi sveglio alle 6 di mattina per pregare. No, per andare a lavorare. Questo sì, certamente, per andare a lavorare. Pare. Però non è che sei un islamico di quelli là forte. Come no, prega? No, io faccio il Ramadan, faccio tutto quello che... il concetto è quello che se io sono in un paese che ritengo mio... Sì. Non impongo la mia religione. Chi vuole mangiare, mangia. Chi vuole bere, beva. Persona però per la bene, stessa cosa non avviene religione. In molti stati islamici questa cosa qua non avviene. Eccolo lì che non arriva. Avviene. Ma non certo avviene. Che non arriva. Ma noi, questo noi siamo qua più è civili italiano di loro. E se ne sbatte dell'Islam. Ma te lo dico cosa io. Dici? Noi siamo più civili di alcuni stati islamici dove esiste la teocrazia. Beh, chiedo appunto. Scusa se è stata una parola difficile. Andatela a vedere. Fermi tutti, fermi. Dalle 6:30 alle 9 c'è la zanzara. Chi sale sul mio taxi deve stare muto. La zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Il discorso è proprio questo, sti cazzo di stranieri che vengono in Italia e si permettono di molestare, uccidere, rubare, nella fattispecie sti cazzo di marocchini qua, dovrebbero andare immediatamente in carcere, ma non occupare le nostre carceri, essere rispediti al loro paese ed essere incarcerati nel loro paese, ste merde. Ragazzi, è semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta 800240024, se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte o volete mandare a cagare Parenzo in differita 393-717-1701, siamo al top. Chiamiamo Sgarbi subito Sgarbone, subito Vittorio, Parenzo, chiamiamolo chiamiamolo subito, chiamiamolo perché ci sono aggiornamenti. Cortina, se non sbaglio, sì, a Cortina mi sembra. Vittorio? Sì. Eccoci qui, come andiamo? Bene, sono anche a Cortina dai, dove farei una lunga vacanza a Cortina. No, ottimo, è stasera, ho portato la mostra delle stanze segrete di Vittorio Sgarbi dedicata a mia madre che è nata oggi, il 22 dicembre. Ma quando è che è l'ultima volta che hai fatto un giorno di vacanza? Un giorno? Ma mai? Cioè tu, quelle però, cose là che fanno tutti, coi figli in vacanza, no. A Natale, le cose le odi, cioè chi... Figli hanno un precetto, che io li vedo per il tempo che sono messo a generarli, cioè un giorno ogni 9 mesi. Beh, pare che sia quello che l'uomo deve fare, il padre è il padre di un giorno, la madre è la madre di 9 mesi. E quindi adesso volevo parlare con Tiziano Ferro per dire che se anche fa un figlio, ecco, Tiziano Ferro, sì, c'è una regola però che impone che un padre serio lo veda per il tempo che si è messo a concepirlo, 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, ma lui non lo fa il figlio, cioè il suo, come dire, il suo seme, sì. Il suo seme va a finire dentro la pancia di un'altra persona. Sì, comunque il tempo di una sega. No, sono queste cose qua. Io in realtà non posso criticare una persona per un suo desiderio, ma l'idea di avere dei bambini, come uno prende un cagnolino, sì, è una cosa insopportabile, perché quello è un capriccio. Poi il capriccio, sei ricco o ti piace. Ho capito, farlo, ma è praticamente come hai fatto i figli tu, però. Tu l'hai visto? No, io non li volevo fare. Per me io ho un altro di responsabilità. Cioè io mi, mi riconosco nella responsabilità di aver messo in scena tre donne a cui ho detto: non potete dire che avete un figlio di Sgarbi, teniamolo, che semmai lo vendiamo. Non ho venduto a me. No, no, aspetta, aspetta la cosa, scusa, com'è? Fammi dire che si sentiva male. No, tu sai, io ho fatto tre figli, no? Sì. Una è morta, aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo, quindi è venuto inevitabilmente. Gli altri due sono figli di una sola azione, sì, molto limitata, in luoghi precisi. Sì. Una figlia è nata su un piede solo, volo d'uccello, sopra lo studio della De Filippi, che era a fianco del mio di Sgarbi Quotidiani, quando sì, dicevano Sgarbi là in alto, in fondo a sinistra, eccolo là, e facevo queste operazioni divertenti, stavi scopando. Numeri. Sì. Rimasta incinta in questo modo, è chiaro che poi, quando la prima è venuta da me, gli ho detto abortire mai. La seconda aveva un marito, sì, e mi ha detto grazie, come la fecondazione assistita. Benissimo, io ero convinto che il marito fosse, quando doveva essere, durevole, invece dopo tre mesi dalla nascita della bambina è morto. Sì. E lei ha tirato fuori il padre vero, perché a quel punto il primo era morto. Ma essere dietro un padre, essere padre, sì, di un figlio che ha un padre putativo, è per me il massimo della dimensione divina, come Dio con San Giuseppe. Giuseppe sei tu, io trombo tua moglie, il figlio è mio e tu te ne occupi, il massimo. Per cui io li ho riconosciuti tutti sul piano di una responsabilità umana, sì, ma sono, come dice mio figlio, genitore e non padre. Però li ho fatti, quindi li ho riconosciuti. Però scusami, hai attaccato Vendola come un pazzo, dicendogli tutti i colori. Adesso Tiziano Ferro, no, dice bisogna rispettare, no, il suo desiderio. Anche Vendola non è che l'ho attaccato, no, quello va in America per fare un figlio, il signor Tiziano. Poi l'ho attaccato semplicemente perché la sua dimensione di cristiano, lui è cristiano, lo mette poi in questa condizione di chi vuole per forza, come un capriccio. Tiziano Ferro non mi risulta né un comunista né un cristiano. Vabbè, adesso questo... No, tra l'altro aveva un'ideologia che in qualche modo doveva frenarlo. Però io ho detto semplicemente, lo dico anche a Ferro, ma più a Vendola, sì, uno che si sposa con un uomo, è già una cosa, ogni matrimonio è una follia, ma facciamo che lo faccia, sceglie un bambino che già esiste per aiutarlo e non se ne fa uno nuovo. Quindi sono per le adozioni di tanti bambini in condizioni di disperazione. È inutile fare l'utero in affitto, eccetera. Questo non mi piace. È un crimine, è un crimine l'utero in affitto. No, sì, crimine sono quelle cose che si può inventare. Allora decido di fare. È un capriccio, è un vero capriccio. Il capriccio per cui tu vuoi spingere quella famiglia che non hai, che non è la famiglia. A proposito di figli, la Raggi è praticamente una figlioccia di Casaleggio da questo punto di vista. Cioè, sì, è incredibile. Viene partorita dalla Casaleggio Associati, addirittura con un contratto firmato. Ti sei incazzato come una bestia. Sì, ma quella è la mafia. Quella è esattamente la mafia. Cioè, quando sciolgono un comune, condizionamento esterno vuol dire, sì, che questo è interessante, con cui tu hai un rapporto contrattuale, cui fai il sindaco a condizione di rispettare certe regole e paghi anche una penale, tu in realtà introduci nello Stato un elemento privatistico. Questa è la mafia, non nel senso del potere mafioso, ma che poi non c'è, sono finzioni delle parole, ma il metodo per cui uno decide, cos'è il concorso esterno? Che il sindaco di una città lo decide un gruppo mafioso e lo mette lì e gli dice quali sono i suoi assessori. Il tu dici che il contratto contratto è un crimine, quello gravissimo, non assumere Marra o il fratello di Marra, è un crimine prendere degli ordini da qualcuno con cui hai fatto un contratto che è prevalente sulla tua elezione democratica. Cioè è più importante il contratto che hai fatto con la Casaleggio del voto che hai preso e tu accetti che ti impongano i assessori. Siamo impazziti. Ma questo è proprio, la mafia fa ridere al confronto. Intanto... Ed è un comportamento mafioso senza che ci sia la mafia criminale. Mi dispiace che ogni tanto maltrattino Parenzo, che è entrato invece nella dimensione di grande sensibilità e buon gusto, e vorrei ricordargli che il mondo omosessuale, che lui tanto ama, vediamo qui, qui c'è la mostra, e sì, no, io al 30 verrò. Il mondo omosessuale? Che a lui tanto piace, guardato con molto sospetto sia da musulmani che da ebrei. Per cui lui è un po' un problema, ce l'ha. È a cavallo fra una sua legittima sensibilità. Comunque a te i musulmani ti fanno schifo, diciamo la verità. No, brava, ha ragione lui. Io sono completamente con i gay. A me l'idea che vengano toccati soltanto un capello, sfiorati e maltrattati dai musulmani e uccisi, mi sembra l'unica buona ragione per dire no ai musulmani. Voglio tutti i culi del mondo, non voglio i musulmani, voglio liberi, culi liberi. Senti, chiama il tuo amico Bocelli, digli di ripensare. Quello di Bocelli, se lo chiamo, quello di Bocelli è incredibile. Poi se uno trampiano è lui. Appunto. Lui è Trump. Appunto. Ma che mi dice, guarda, io ho fatto la carriera importante, non l'ho fatta nei teatri, Io sono molto ricco, sono due volte me l'ho detto, questa cosa della sua ricchezza mi ha inquietato perché evidentemente ha trovato un filone giusto che non è quello del cantante in un teatro ma del cantante nel mondo. E dopo di questo, con una evidente assenza di moralità rispetto a un capitalismo che ti ha portato a dirci di no al tuo modello di vita culturale, di sensibilità, Trump e Bocelli. C'è del Trump in tutti noi, ma c'è in particolare in Bocelli. Perché certo. Dire di no a Bocelli è come, a Trump. Come sa farsi una sega davanti a Naomi Campbell. Cioè, è Bocelli che dice di no a Trump è come avere Naomi Campbell invece di scoparsela a farsi una sega. Adesso, tanto per, tanto... dopo che se l'è portata a casa il riatore. Sì, ma io dico una cosa. Bocelli, diglielo, sei uno stronzo. Lo Bocelli. Chiamo, stasera lo chiamo e dico vai da Trump e canta per tutti noi. Viva la gnocca! Ciao, ciao Vittorio. Ciao, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, effettivamente uno più ci pensa, ma non perché ho scritto pure su questa cosa, David, per carità, cioè più uno ci pensa, più è folle. Cioè farsi ricattare da quattro stronzi che sul web ti insultano è ridicolo. Sì, cioè, certo. Stare questo... lì attenti, anche se uno è una star come Bocelli, a quattro imbecilli, quattro rimbambiti militanti che dicono boycott Bocelli perché vada Trump a suonare. Ma andate a fare in culo. Cioè, Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Ovviamente uno può andare o non andare a questo concerto, probabilmente sarà una cosa anche troppo sfarzosa, forse anche un po' cafona, ma chi se ne frega. Pare che voglia fare una mega festa tra New York, Washington, ma insomma cazzi suoi, pagherà lui, è multimilionario, chi se ne frega. Ma il fatto che qualcuno pensi a organizzare un boicottaggio perché uno come Bocelli, cioè, va a cantare da Trump, tra l'altro Trump una volta gli ha prestato pure un aereo. Cioè, l'ho detto anche sì, Bocelli. Va bene, ma io gli lo ha prestato un aereo, invece... ma c'è anche riconoscenza da parte del signor Bocelli, se non va. Solamente per preservarsi, ma che gliene frega, è multimilionario. Quattro militanti rincoglioniti che è meglio perdere. Dai, ragazzi, su, è veramente una cosa patetica. Antonio da Pescara, vai. Tra poco ecco. Ti faccio una sorpresa, Davide, alle 20:30. Tremo. Vai, Antonio, vai. Eccomi. Dimmi, Anto. Allora, rispetto sempre agli uomini che devono puzzare, no? No, ma non è che devono puzzare per forza. Adesso, anche questa, non è che per forza è così, eh? Cioè, attenzione. Vabbè, allora... Non sono della stessa opinione, perché, tra l'altro, mi sento anche un po' invidiato dagli uomini, perché non sudo poco in tutto il corpo, ma per niente sotto le braccia. Beh, posso dire che non ce ne frega un cazzo del fatto che tu non sudi sotto le braccia? No, per dire così, è una tua esperienza personale, per carità. Ma perché tu dici sono fortunato perché non sudi mai? Esattamente, ma questo io lo riscontro anche nelle donne e anche negli uomini che mi stanno a fianco. Cioè, no? In che mi senso? Dicono, non ho capito, tu cazzo, non sudi mai? Ma lo sai quanto tu inizi? No, non sudo, non so, sarò normale. Ma in però che non occasione sudo. Non sudi mai? No, non sudo. Sotto le braccia particolarmente, nel senso che non si vedono gli aloni quando Davide, è stato 40 gradi. Sei interessato alla notizia che Antonio da Pescara non suda? Posso dirti meno di quanto tu possa immaginare? Cioè, mi spiego un momento, provo a spiegarmi. Alcune notizie mi possono interessare, altre meno. Questa mi ha attraversato il cervello. Sì. Ed è uscita con la però velocità... Però Antonio ci sta dicendo una cosa, esistono delle persone che non sudano, dunque non hanno quei problemi di cui parlavamo secondo prima. Te. Antonio, secondo te, voglio chiederti una cosa, secondo te, agli industriali, a Presidente Boccia, a Bombassei, ma che ce ne frega a noi? A Marcega. Ma che secondo me ne frega, quelli sono quattro, gli ascoltatori sono... in macchina alle 20:29. Sono interessati a sapere che un ascoltatore del programma Miserabile della Zanzara, che non suda sotto la scena. Scusami, un telefonista, perché gli ascoltatori sono tantissimi e sono brave persone. Un ascoltatore. Uno che chiama l'800, che dice, secondo te racconta una sua esperienza personale, che è anche importante, perché magari quelli che non sudano spendono di più e dunque fanno ingrassare. Cioè, che ne sai, Antonio? Eccomi. Vabbè, non c'è un cazzo da dire. Il punto che dicevo è che alla donna piace l'uomo che non puzza, non l'uomo che puzza. Vabbè, questo è un altro discorso. Dai, Natale da Salerno, dai, Natale. Oh, Cruciani. Dimmi, Natale. Mi senti? Sì, dimmi, Natale. Ascolti, ti devo dire una cosa. Ma tu ieri hai detto che sei a favore dell'utero in affitto. Sì, ma che c'è il cane sotto? Che c'è il cane? No, c'ho mio figlio, ho tre figli. Hai tre figli, vabbè. L'hai fatti normali, sì. No, solo tre figli. Tommaso, solo? Cani, non ne ho. No, ma ho capito. L'hai fatti normalmente, senza utero in affitto, senza cose così, o no? No, sposato. Sono sposato dal 2003, naturale. Sposato. Allora, vedere. Ti dico, Vedi, allora un bambino che nasce e non ha una mamma, secondo te è bello? Ma cioè, non cambia molto rispetto a altre famiglie eterosessuali in cui succedono le peggio cose. Guarda, fermo, vabbè, non è come dici tu, fermo lì, fermo. Ma che me ne frega a me del Natale che sto aspettando Paola Saulino per il Pompa Tour. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento La Zanzara. Sto pisciando nel lavandino di mia suocera. Che goduria, viva la Zanzara. Pensa se lo facesse Parezzo nel lavandino della suocera, pensa che casino che accadrebbe. No, ragazzi, ma non lo faccio neanche nel lavandino di Mauro da Mantova lo farei io, capito? Neanche quel lavandino. Comunque, ragazzi, poi uno dice la chiesa italiana, adesso sono accuse tutte da provare. Padova, donna denuncia il parroco. L'ho letto sul Messaggero. Mi ha fatto prostituire. L'ho letto sul Messaggero. Ho capito, ma fammelo leggere però. Non no, è che... ma anche io, la gente non donna è... denuncia il parroco. Mi ha fatto prostituire. Perquisita la canonica. Vibratori, fruste e film hard. Don Andrea Contini indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. L'avvocato: aspettiamo di capire cosa è successo, chiariremo tutto. Cioè non è che dice no, non è vero, sono accuse false, eccetera. Chiariremo tutto. Dunque è tutto vero. Cioè quando dice chiariremo tutto. Scusa, ma se trovano vibratori, fruste, film hard, in canonica. Io non mi stupisco di niente, per carità, ma quando dicevo della vita dissipata, del dio denaro, del dio piacere, bisogna guardarsi anche un po' intorno, no? Anche un po' intorno, per esempio a Padova in una parrocchia, col parroco denunciato per aver fatto addirittura prostituire una donna. A questo proposito, caro Parenzo, vicino Padova, dalle parti di Pordenone, c'è una signora quasi cinquantenne, quarantottenne, dal seno molto prosperoso, pare che abbia la quinta, la sesta, la settima, non mi ricordo. Tutti i dettagli. Adesso ce lo dirà, è importantissimo perché basa tutta la sua, come dire, la sua presenza su queste tette enormi, che si chiama, detta anche la porno prof, era detta la porno prof, lei non vuole, la sexy prof. Sì, sì. Fu ripresa con un filmino, fu sospesa, adesso insegna in un istituto per adulti, ma non di film per adulti. C'è un istituto dove vanno alunni un po' adulti, scuole serali. Si chiama Anna Ciriani. Ciao Anna, bentornata. Ciao, buonasera. Come stai? A tutti. Come stai, bene, cara Anna? Grazie, benissimo, grazie. Senti, voi tutto bene? Non c'è male. Bene, bene. Non c'è male. Ecco. Parenzo, pare che il tuo genere non piaccia molto, quello no, della No, io non mi permetto no, di giudicare la signora, perché... ma figuriamoci. Però la signora ha una quale sarebbe, scusa, il mio genere? No, il tuo genere sarebbe, diciamo, no, quello femminile. Sì, quello no, prosperoso, no, no, quello prosperoso, no, quello femminile, sì, tutto femminile, ciò che scusami Anna, ma io non capisco, tu hai detto, che, ti eccita più la politica del porno, cioè tu fai praticamente certo. La via opposta, la strada, una strada completamente diversa rispetto a per esempio quella della signora Malena, la pugliese, amica nostra, Parenzo, o no, è amica tua la Malena la pugliese, quella dell'assemblea no, del PD, che invece non gli interessa diciamo più fare la politica, l'assemblea del PD ha cominciato a fare i porno per Rocco Siffredi. Tu, beh, a te ma non... lei è una pornostar, probabilmente vuole fare la pornostar. Ma perché io non lo fai? Sono una professoressa, io sono una professoressa ragazzi. Non esageriamo, io sono una dai. Professoressa di ruolo, lavoro a scuola. Ma c'è, tu sei proprio di ruolo. Italiana. Tu certo. Sei proprio di ruolo. Certo, io sono una professoressa di ruolo, non sono mica una pornostar. Sei anche credente però, certo, cattolica, molto certo. Cattolica. Io molto, sono cattolica, sei credo cattolica, io. Credente. Non sono una cattolica frequentante, però ecco. O praticante, diciamo, però no, io no. Prego Dio sì, sicuramente sempre. Prego Dio. Certo. Diciamo è una parte dunque, penso ci sono queste due cose. Lei è una professoressa di ruolo certo. Che insegna alle scuole serali per sì, questo è anche una molto credente, nello stesso tempo è anche molto esibizionista, se non sbaglio, vero certo, Anna? Certo, io non mi vergogno del mio corpo assolutamente, e quindi io non ci trovo niente di male, sono una bella donna femminile, ho 48 anni e hai trovato un marito, che ho il corpo che sembra sì. Un'opera d'arte, allora le opere d'arte non bisogna nasconderle, capito, bisogna sì. Esporle signora... ragazzi, bravo, dica. bravo, dica, signora dica. Mia, io no, ma ha ragione, no, soprattutto perché aspetta, perché bacchettone, no, signora. A me va benissimo che un'insegnante prosperosa come lei definisca il proprio seno un'opera d'arte. È anche molto credente, no, molto cattolico. Non lo definisco io, lo definiscono gli altri. Gli altri chi, signora mia? I suoi ammiratori. Pagata per insegnare alle scuole. Va bene. Lei è pagata per insegnare, mi pare, no? Sì, non per mostrare nella scuola. Non no, mostrare. Ma io a scuola non mi mostro. No. Io a scuola vado morigerata. Vado vestita. Però poi uno apre internet, apre, va a vedere le foto, va a vedere le foto. Nella mia vita privata, nella mia vita ma privata. Ma può fare quello che le pare, ma che, esatto, ma non certo, è troppo privata, ma nessuno in teoria, lo mette in discussione, in teoria, ma invece purtroppo mi hanno sospeso. Però e Anna, quella è una cosa grave, ragazzi. Anna, scusa, ma l'hanno sospesa perché? Ma è successo anni fa, questo è successo anni fa. Perché nella mia vita privata, esatto, è successo anni fa, ti ricordi? Cosa fa lei nella sua vita privata? Fa e perché lo vita pubblicizza privata, lei? Lei ha un ruolo che è quello di fare l'insegnante, no? Invece fa l'esibizionista. Nella vita privata fa l'esibizionista. Va bene, ma lei per me può fare sì, quello ma un po' che le pare. L'esibizionismo, ormai siamo tutti esibizionisti, ragazzi, anche voi siete esibizionisti. Che ma siete adesso, lì. Signora mia. Non c'è mica niente di male. Non andiamo in giro con l'uccello di fuori. Non andiamo in giro con l'uccello di fuori. Il dottor Cruciani ha sintetizzato magnificamente quello che è il mio pensiero. Tu dici così adesso, però magari, che ne so. Ma no, non so, non vado in giro con l'uccello di fuori. Però scusami Anna, dico una cosa. Privato magari ci va. Andiamo, ricostruiamo un attimo la situazione. Non c'è niente di male, non beh, no, di male, a me lo dici. Uccelli di fuori. Non sarà mica però, quella la Anna, cosa grave. Anna, scusami un attimo. Allora, tu la realtà è questa, che tu a un certo punto della tua vita hai incontrato tuo marito con il quale adesso praticamente trova piacere al fatto che tu ti accoppi con altri uomini. Questa è la sostanza. E beh, insomma, non è mica com'è l'unico, la storia, scusi? No, capito, però non ho capito la storia, chiedo scusa. Amano così vedere la propria donna assolutamente ma non a livello attenzione bisogna, però solo a livello fisico, fisico non fisico. A livello sentimentale non c'è dubbio, non c'è l'amore, no, non ho capito, scusi professoressa, no, questa sta superando il limite, scusi lei ogni no scusa non attimo. Sempre allora ogni tanto aspetta Anna, fermati, fatemi capire, ogni tanto andiamo in qualche club privé e ti fai trombare dagli altri, questo è il punto, davanti a tuo marito, giusto? Vabbè, ma ragazzi, non c'è niente. Ogni tanto è successo, non c'è niente. Se di male, per voi insomma, è normale. Allora, scusate. Non è normale, cioè, voglio dire, no, perché è non entro, non entro aspetta, nel merito. Aspetta un attimo. Non mi faccia però passare per normalità. Passi che lei è una professoressa prosperosa e benissimo, insegna alle scuole serali, ottimo. Passi che il suo seno lei lo considera un monumento di stato, un'opera d'arte. Ottimo, benissimo, non metto in discussione. Sì. Ma che lei però bravo. Adesso venga da noi. Aspetta, passi radio. Anche, passi. Ma senti, ci sono tante donne che tradiscono i mariti e si vanno a fare altri di nascosto ipocritamente, sì, però, non è meglio una donna come me che lo fa davanti a suo marito? Se a suo marito gli piace essere cornuto, evviva quel cornuto di suo marito, evviva quel cornutazzo, quel cornutazzo di suo marito, ma non è normale. Non c'è è normale, senso, ma almeno non siamo persone ipocrite. È normalissimo. Almeno non ci facciamo le corna e poi ci facciamo bravo. I sorrisi. Allora Anna, diciamo Anna, scusa un attimo, Anna, diciamo ma una dai, cosa. Aspetta, aspetta. Io noi ci mettiamo la faccia. Calma, ragazzi. calma. Io vi voglio invitare, ragazzi, vi voglio invitare. Dov'è con il cornuto? Me mi passi il cornuto. Ma no, voglio invitarvi in un club privé. Ma io ho una vita sessuale tranquilla, non mi interessa, e anche al pagata. Siamo tutti cornuti. Non mi interessa niente. No, cornuta è lei. Lei e suo marito, oggi, e suo marito oggi. È anche felice di essere però cornuto. Torna a casa cornuti. A cena e dice: amore, ciao Anna, come stai? Bene? Senti, ma stasera, ma chi ti ingroppi? Ma dice: ecco, guarda, scusi, stasera, andiamo francamente, andiamo a divertirvi. Anziché dire: scusa, amore, cosa hai cucinato? Ma guarda, altri. Stasera ci mangiamo una pizza, andiamo al cinema, andiamo a teatro, andiamo all'opera. Dice: no, stasera, anche voi con noi. Stasera, che cosa fai stasera? Ma dice: guarda, stasera pensavo di ingropparmi, Franco. Ah, dice: beh, un'ottima idea, mi pare, Franco. Ottimo, andiamo. Non è normale. Secondo senti, a casa mia non è normale. Tutto, mi passi il cornuto. No, mi passi il cornuto. Lui voglio parlare col cornuto. Cornuto voi no. Ma guarda te, uno lui torna a casa e dice: amore, che cornuto. Fai stasera? Ma andiamo al cinema. Senti, caro, ma che cazzo c'è? Guerre stellari? Ma bello, Guerre stellari. Questa è una cosa normale. Bravo, questa è la differenza. Voi, mamma lui mia, lo ragazzi. Sa di essere cornuto, voi no. Brava, brava. E questa è la differenza tra voi e lui. Brava. Che lui lo sa di essere cornuto. Invece voi no. Meglio l'ipocrisia borghese di questa porcilaia. Porcilaia di quello lì che addirittura vuole vedere la moglie. Non è normale, dai, non è normale. Sporcaccioni, sporcaccioni. Dove? Sporcaccioni. Voglio invitarvi. Ma che nei club privé. Vabbè, sono bellissime adesso. C'è una rete di club, la SI. Ma quale? Adesso facciamo pubblicità. Ma pure la marchetta al club privé adesso. Ma dai, tutto te l'ha dato. Le saune, i massaggi. Ma le saune, ma se le fai. Ti puoi divertire con altre divertire, persone, ma uomini e donne. Ma dai, ma pure con le donne. Voi che siete lì a Roma, durante l'antica Roma, a Grecia, a Milano, vabbè. Ma Roma, noi che diciamo arriviamo direttamente dai latini, dai romani, dai greci. Allora, Anna, non facevano le orge tutti quanti? Sì, anche, certo. Adesso ci stiamo scandalizzando così. Signora, io non mi scandalizzo di niente. Scusami, Anna, scusami un attimo. Che dicono quelli là del centro provinciale istruzione adulti di Pordenone dove insegni tu? Cioè, sono impazziti praticamente. Quelli si ammazzano. Dice, chiedile il numero. Ma ti rendi conto? Scuola, cioè, e la quelli si ammazzano di Sannuna, se eri fatto vivo Sannuna, vuole il numero di quello questa del cornuto. No, non è così. È tu così, sì, ha scritto adesso. Non è così. Intanto io insegno agli stranieri, non che se hanno internet loro vengono per le loro esigenze di imparare la lingua italiana e questo pure si islamici, fa a scuola, pure islamici. E questo sì, certo, anche islamici. Come sono gli islamici? Marocchini, tunisini. Sei stata pure con quelli, con i marocchini pure? No, io non vado con i miei alunni assolutamente, no, per i tuoi me alunni. Io sono molto seria. Si ammazzano di seghe figlio. E quindi non si transige su questa cosa qua. No, vabbè, Dalla dice resisti a Dalla Capatemus. La vita privata. Quell'altro chiedi il numero, la Lander Fannuna, è pensate, importante, ognuno ha il diritto di vivere calma, la propria calma, sessualità. Calma un attimo, fammi fare due domande, Ok, nella Anna, propria vita privata. Anna, fammi fare due domande, assolutamente. Il lavoro e il lavoro. Sì, ma stai tranquilla, allora fammi fare due domande. Allora, la cosa fondamentale è che tu non hai voluto dire in questa bellissima intervista che hai fatto a Libero, se non sbaglio, all'amico dall'Orto, non hai voluto dire con quanti uomini saluto l'amico dell'orto se ci sta sentendo. Quanti uomini sei stata? Con quanti uomini sei stata in tutto? Ho detto da una a mille. Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Dai, fai un conto. Ma che cazzo vuol dire? Hai ragione, 2000. No, dai, fai un numero, dai, dammi un numero, 500, 600. Guarda, io non sono così santa per contarli, l'ho già detto. Tanti, e tantissimi, quindi, tanti. Dai. Orge con quanti uomini insieme? Ma le orge non sono mica fatte solo da me, ci sono tanti uomini no, e donne. No, ma tu con chi sei stata? Tanti in contemporanea? Uomini e donne nelle orge. Quanto? Non è che con quante erano il massimo che hai fatto? Questo, quante sei stata? 20, 30, 40? Ma ci sono state 30, 40 persone ma intorno. Ma 30, 40. Ma come 30, 40? Ragazzo, 40 se questa vuole fare l'orge con 30 persone. Normale. E questo è normale. Uomini, donne, il cornuto torna a casa e dice stasera cosa facciamo? Ma dice guarda stasera danno in TV il commissario, danno in TV Rex, il cane Rex. Allora guardiamo Sky, magari oppure guardiamo una Oppure andiamo al cinema. Anche la televisione, leggo anche i giornali, signora guardo anche mia. Le cose importanti. Non è normale che durante la cena con suo marito c'è la voce e dice chi ti va di fare stasera? Ma se sono pieni, facciamo una orgia con 30 persone. E lui bene. Di italiani. Ma siete pazzi, siete. Non sono mica extracomunitari, Anna, calma. Io persone come noi, professionisti. Tuo marito di questa cosa qua praticamente gode come un pazzo di questa situazione. Certo. Qua. Tuo marito certo. È pazzo. Ormai non scopate più anche insieme. Adesso che mi sta sentendo sta godendo. Dov'è? Passami un attimo, passi il cornuto. A questo punto voglio parlare col cornuto. Se questo è felice di vedere la propria come amore, la propria amata. Eccoci, marito. Benvenuto cornuto. Che fate stasera? In quanti state? In 40 con sua moglie? No, come va? No, in realtà. Dovete sapere che io e mia moglie abbiamo un'attività sessuale eccezionale da oltre 30 anni. Gli piace così. Da quando lei aveva 18 anni che noi stiamo insieme. Sì. E vi posso garantire che ogni giorno abbiamo rapporti io e lei e basta. Bravo. Vedi, ma questo perché lo dice la stimolato, radio? Stimolato dall'attività sessuale di tua moglie, giusto? Ma assolutamente. Cioè senza allora, quello sarebbe finito il matrimonio, finito, morto. No, assolutamente no, perché poi alla base ci deve essere sempre l'amore. Il tradimento in realtà, che poi non è un tradimento, ma giocare diciamo sessualmente con altre persone implica un grande sentimento, perché altrimenti i due si lascerebbero subito. Ecco, ma non c'è il rischio un po' della droga? Non c'è il rischio della droga che diventi una droga? No, assolutamente no, perché se ci qual sono è la cosa valori... più assurda che hai fatto fare a tua moglie o che ha fatto lei consapevolmente, diciamo? Oddio, la cosa più assurda più di quella che ci ha detto ancora è un po' di imbarazzante dirla qua adesso in diretta, anche perché poi non lo so quanti ascoltatori avrete, ma insomma ce ne saranno parecchi. Vabbè, un'orgia, hai fatto fare un'orgia con 20 uomini, 10, 15, 40. Ma sì, ma no, è normale, sono anche è naturale, certo, number, non ci mancherebbe. Come si dice Allora vi do un termine tecnico, praticamente queste cose qua si chiamano, cioè le persone che amano vedere la propria donna con altri uomini si chiamano cuckold. Sì, sì, il termine deriva da cuculo in inglese e praticamente si dice così perché ci sono molti uomini che amano vedere la propria donna. Dice, che fate per le vacanze di Natale la sera del 24? Ma dice, c'è la gente che va a cena con la famiglia. Cena 24, no, si fanno le cose serie in famiglia. Cose serie in famiglia. Non voglio sapere cosa avviene in quella famiglia la sera del 24, ma non perché io sia cattolico, perché sono di un'altra parrocchia, come lei sa, ma non voglio sapere le porcherie che fate quella sera alla cena di Natale, perché immagino le peggio cose in quella famiglia, amico mio, perché se per voi è normale, ma avete figli voi? È molto avete figli? Due figli. Sì, abbiamo due figli. Non si vergognano? Saranno felici di ascoltare questo alla radio? No, saranno felici sono, tutto sono questo. Sono due bravi ragazzi, sono dei ragazzi che hanno dei valori, sono ragazzi molto intelligenti. Comunque non mi devo arrabbiare, non sono alcolizzati. Immagino, ma va benissimo. Che votate? Che votate? Tu che voti? Ma io sono di estrema destra, proprio di estrema destra. Sono amico del vostro amico Polegato, sono amico della persona che ha chiamato l'altro ieri che diceva che lui è a favore di Hitler. Pure. Sì. Cioè sei proprio fascistissimo, sei fascistissimo. Sto scherzando. Sono una destra moderata. Ma che destra moderata? Hai detto apposta adesso sei recupera. Passami un attimo. Ti passo subito. Cornu, passami un attimo. Ciao. Contento così. No, volevo dire che tu adesso devi farmi dire che io sono una persona che comunque tutti mi conoscono e saluto tutti quelli che mi conoscono. Che ho dei valori. Ma non certo, è che sono tutte le sere a fare queste cose. Io ho anche una famiglia, ho figli, ho il mio cane adorato che ho. Amica mia, però che vuol dire? Ti piace fare orge? Va bene, io allora sono anche quello. Guarda, devo valore dire, dell'orgia. Parlavate di queste cose. Tu che voti? Che voti? Cosa voti? Aspetta, io sono centrodestra, io sono cattolica, però io ho amici di tutte le religioni, ebrei, musulmani. C'entra non voglio niente. Dire che io non sono razzista, visto che parlavate detto? Di queste Scusa, cose perché dobbiamo, prima. Perché dovresti essere razzista? Mamma mia. Ma perché stai sondando? Stai andando su cose? Sto sondando perché mi piace esagerare. Ciao tesoro, ciao. Ragazzi, buon divertimento, abbiamo messo in onda una famiglia italiana. No, non è esattamente così. Non è così. Non è a domani, esattamente così. Vabbè, comunque mi avete rotto il cazzo, mo vi ho detto, andatevene a fanculo tutte e due. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.